pubblicisti, io sto adoperando quella radio, ti ricordi ti ho fatto vedere che è molto silenziosa e non prende colpi. No, come batti sarò sui 4 watt, non sta uscendo con molti watt, mi chiedi che non è neanche tutto aperto, però gioco il microfono e l'ho messo in una posizione a 5. E se è troppo alto come amplificazione o se può andare bene, se no la abbassiamo appena appena. Non ho detto, non sono di quelli che ha appena la lingua, lo sai, no? Sta uscendo magnificamente bene qua, nella mia radio, nella mia ricezione, nella mia antenna, nella mia posizione, qua a casa mia. Perfetto, il tuo segnale 9 più 20 spaccato, qua col 440, e stai andando alla grande. Perfetto, meglio di così non si può uscire lui. No, positivo, interessante, se arrivo anche a Carl Jäger, no, perché io ricevo tutti, e i problemi sono per uscire, perché sai che tu hai visto da me io cosa c'ho, c'ho quei apparatini, ho levato tutto e non ne ho più, ti ho fatto vedere che apparati, come si chiama, non ne ho più piazzati in cose, io ho solamente quegli apparatini che non vanno oltre 5 watt, non vanno di più, capito? E sto modulando con baracchini, non con radio, baracchini intendiamoci, però diciamo dai, non voglio essere né troppo forte né neanche troppo basso, che sia normale, una cosa normale, non mi interessa più di tanto, interessante mi ascoltino chiaro e perfetto. Va bene, riprendi il palchetto, che l'abbiamo lasciato in parcheggio, riprendi il palchetto. K, Mario, bene il procedo? Fatta di positivo, io ti ascolto bene. Positivo. Vabbè, da controllare i microfoni, Mario. Che? Era che non stavano uscendo, non ci sono andato da Toledo, ci passo in settimana. Ti potevi fare un salto, sarei lì a un soffio, avere pure il falchetto, lo sai, basta che tenda un po' le ali e sei subito arrivato. Ehi, infatti, e adesso vedo se faccio, perché devo andare a fare la commissione, capito? Vedo un po', se ho tempo magari ci passo dopo, se c'è. K, poi casomai mi fai sapere, non c'è problema, io sono sempre qua, niente, va bene così, da, ok, riprendi Capri 2, facci sognare da quella montagnetta. Parlare con qualcuno, ma a casa no, sai che ho mille problemi, purtroppo lo sai, è questo che ha fatto una denuncia da una parte, perché mi disturbano solo le cuffie che ascolta la televisione, quello c'ha questi problemi, denuncio entro lì. E allora a un certo punto ho cercato di eliminare tutti questi apparati, anzi anche uscendo a volte evito, io c'ho un 48, ho mai toccato qui a casa, normale, e un ARA 48, un Midra, un baracchino, non tocco neanche quello, non attacco neanche quello, non c'è il negozio aperto perché me lo farmi sentire dentro il negozio, ma... Ecco, e allora niente, Tommy, modulo con un radietto così, con queste radio così e basta, no? E cerco di abbassare sempre il valore al minimo, tutti cercano di alzare, io perché devo abbassare, no? A casa, io parlo a casa, non in cambio un altro conto, Mario. A casa è diversa la cosa. Benissimo, li passo tutti. Per nulla e mi sono un po' scocciato pure di questo, di tutte queste cose, di negozio, quello e quell'altro, hai capito? E allora cerco di evitare a monte di entrare, mi sa se è chiuso, io sto. Mi fa piacere passare mezz'ora, un'ora con gli amici, dai, fare una chiacchierata, capito? Tutto qua. Andà bene, riprendi Clavier. Sì, capo Luigi. Com'è così? È chiaro che va bene la tua scelta. Ognuno fa le scelte che vuole, non c'è un problema. Ho registrato una chiamata quasi sopra di te, non è riuscito solo a modularti, vediamo un po' chi è avanti. È la mia modulazione un po' particolare, non viene avanti nessuno. Riprendi tu Mario, fai passare chi vuole. KK, mi è sembrata la voce di Natalino che ha fatto un passaggio anche poco fa, voleva cercare di sovramodulare a Vulcano, però il caro Vulcano spara bene da lì e non è facile sovrappopolarlo. KK, riprendi Natalino, dai, con la buonasera. Dai, non buttare via tutto, che intanto non ce l'hai fatta a sorpassarlo a Vulcano, là, stai tranquillo, rilassati, anche Vulcano è più forte di te. Ma se è vero così, abbassami, aspetta un attimino, che chiudo un po' di radio qua e aspetta che abbassiamo. Che sta uscendo un po', così migliore, più basso è così. Lasciala com'era. Non vorrei che ci sia anche quelle con le cuffie in televisione lì che mi ha fastidio, là, ok, abbassiamo un po', chiudiamo la radio di chi è quasi. È più di mezza, è chiuso più di mezza, là. Ma vedi, non esci di radio, ma mettilo come era, sta venendo benissimo. Ma chiara è così, si ascolta bene. Benissimo, modulazione, ma non credo Mario che fosse lui. Io mi sono espresso perché l'ho riconosciuto, però non credo fosse lui. Qua arriva molto forte. No, metterà come era lui che andava benissimo, non ti preoccupare. Claudio, se ha fatto il nome, vuol dire che l'ho riconosciuto, no? Perché ho capito solo carissimo di tutto quello che ha detto. Però stava quasi staccando Vulcano, capito? Niente di particolare. Comunque se vuole entrare noi siamo qui, non c'è nessun problema, riprendi Capri 2 che sei il più lontano. Assolto, no? Comunque non era Natalino, perché Natalino non è di quelli che sta a mettere portante e cose a passare sopra, perché sarebbe entrato, se era stato Natalino sarebbe entrato, no? Vuol dire qualche don altro che voleva entrare, sta facendo qualche prova, dai. Sicuramente non era Natalino, dai. No, non è così, dai, vai Mario, riprende. Anzi, fate riprendere a Falchetto che l'abbiamo lasciato parcheggiato lì a come si chiama, vai Falche. Paparocero, Cappa di Rogero, e niente, no, io adesso faccio un attimo di bianco, vado a fare questa commissione e poi se coincide ce la riassentiamo tutta dopo, dai, saluto a tutta la ruota e ci da a più dopo se coincide. Ciao ciao. Ciao Fabio, vai Matti. Gatta gatta, buone commesse Falche. E non volare troppo basso, sai che metti qualche lampione, vola sempre alto, gappa gappa, anda bene, e che cosa dire? Facciamo riprendere a Claudio, no, a Chiru, da un bel che non raccusciamo più in radio, mi fa piacere quando entra, riprende qua. Cosa? Detto riprendi Claudio, ho rilanciato a te, siccome eravamo da tanto senza sentirti in radio, che un po' di tempo che ti sei fatto quasi bandito, e ci fa solo piacere quando entri. Gatta di positivo, riprenditela. Grazie Mario, caffè pagato. Non c'è problema, io sono sempre in radio, non parlo ma ascolto tantissimo, sto facendo una grande cultura. Che non viene bene neanche, guarda, ho fatto un libro dove ho scritto tutto quello che penso e che dicono. Sono sempre in ascolto Mario, non ho più quella grande voglia di stare in radio, comunque quando fa piacere che c'è gente come te, come Gigi, come Gianni, altri due. Mi fa piacere entrare, salutate, niente particolare, ma comunque sono sempre all'ascolto. Quando sono a casa io sono sempre all'ascolto, non c'è problema. Poi qualche chiacchiera ce la stiamo facendo la sera lì sul canale 30. Niente. Ok, vediamo un po' il microfono per Gianni K2. Vedi un po' di far passare il microfono al Falchetto se vuole riprendere. Lasciamo faccia come vuole. A te Gianni K2, cambia. Falchetto ha detto che ha fatto bianco e stava andando a fare questa commissione, forse stanno a trovare a Pompugno, non lo so, per qualche microfono, e ha fatto bianco, capito, riprendi mai. Ehi, a KK, vabbè, Luca, quando parti domani mattina, solita ora o più tardi? No, ma sai perché? Se no devo rimanere fermo, me la sai, perché c'è un carico d'acqua e me la faccio piano piano. Ma non lo so neanche io se partire alla stessa ora, alle 5:03, perché devo aspettare che fanno l'altra bandiera lì all'ammiragliato, quel coso della marina, la matanera, hai capito? E tra una cosa e l'altra se fanno le 9 che posso entrare, prima le 9 non posso entrare, hai capito? Devo attraversare quel proprio piazzale loro dove fanno l'altra, diciamo, l'altra bandiera la mattina, capito? Perché lì è un coso di allievi, ci sono anche nuovi arrivati e via dicendo, e fanno questa si chiama la donata, la promanzano dell'altra bandiera, dai, quel ritrovo che fanno tutti quanti nel piazzale. E ho capito, ma guarda che se tu arrivi e te lo guardi quell'altra bandiera, Vulca, ci sono tante belle fanciulle da vedere, perché non ci sono solo maschietti, ci sono anche delle belle fanciulle, a me non ci si lucidano gli occhi. Eh no, io te lo sto dicendo perché quando andavo io andavo presto, anche perché noi, perlomeno io con un mezzo piccolo, facevo tutto il giro dalla caserma e non davo disturbo, capito? Passavo là dietro. Però lì ci sono tante belle figliuole da guardare. No Mario, io già ci sono ragazze, perché ce ne sono parecchie. Però ricordati una cosa, sono tutte pazze, non so per quale motivo, forse perché la marina, gli altri ne vanno all'esercito, non so che dirti. Ce ne sono tante ragazze nuove che le mettono a fare pulizia, a scopare il cuore, però mia attenzione, no, non pensare al mare. E ce ne sono diverse di ragazze, però sono tutte basse, non sono alte, una molto basse come altezza, non so per quale motivo. vuol dire che l'ho scelto per l'altezza, non lo so, perché forse una più alta sceglierà l'esercito, non lo so, i carabinieri, non so che dirti. Però nella manina io ho notato tutte quelle, ce ne sono parecchie, ma tutte a basse queste ragazze. Ah, ma 2 anni fa quando c'eravamo noi lì lavorando, Vulcà, c'era un certo stangone, ui. Tutto da vedere, guarda, a vedere, poi ce n'erano anche un bel carine. E vabbè, là, comunque, tu a te forse perché sei già... Sì, ammogliato, magari non ti interessano, io invece quando le vedo, sai com'è, ogni tanto mi si chiudono gli occhi. No, a me che mi interessano, non mi interessa, non è che non mi interessino, però, no, ma 2 anni fa perché stavano facendo su, hanno ristrutturato tutta quella palazzina su in alto, dove io andavo e riuscivo a girarmi lì con l'articolato, no? Invece poi c'era tutto il cantiere aperto, ci stavano lavorando e dovevo entrare e uscire tutto a macinietto lassù. Io entravo dal cancello che c'è prima, nell'ingresso dove entri tu, dove entravi tu, c'è un cancello prima, me lo facevo aprire, quel cancello, deve andare lì, ti fanno aprire quel cancello, però di fronte a quel cancello c'è quel piazzale, lì fanno la tua bandiera la mattina, hai capito? E ci sono tutti quanti quei militari, diciamo, della marina, e bisogna aspettare che loro si liberino il piazzale per poter entrare, hai capito? Tutto lì, allora non ci faccio nulla presto la mattina, hai capito? Perché devo stare in mezzo strada, sai, una strada stretta e anche trafficata un po', hai capito? Allora devo stare bloccando lì in mezzo strada, aspettando mezz'ora, un'ora, e allora ci vado più tardi, hai capito? Tutto qua, hai capito? Andà bene, riprendi Claudio, se no qua ci annoiamo. QSL Luigi, dai, riprendo e vi saluto, un abbraccio a tutti, a te, a Mario, a Gianni Capriduro, e ci sentiamo alle prossime. Io stacco e adesso mi preparo che dobbiamo uscire a fare delle commissioni, altrimenti si fa tardi. Mi ha fatto piacere ascoltarvi e ci sentiamo alle prossime. Io lancio il microfono a Gianni Capriduro, ascolto poi i vostri saluti e spengo. Ci sentiamo alle prossime, grazie del QSO. Avanti Gianni Capriduro. E c'è gente, dai, riprendi tu Mario. Un abbraccio a tutti, alle prossime. KK, buon proseguo di serata, buona passeggiata con la signora e tante belle cose, dai, ce la risentiamo alle prossimine. Vai Luca. Yeah, ciao Claudia, infatti buon proseguo della serata e buon tutto a te famiglia. Ce la riascoltiamo alle migliori e ricordi che sabato, la domenica mattina sto sempre lì a fare caffeina, io mi trattengo sempre un paio d'ore e poi me ne vado a casa. Quando oggi è una bellissima giornata, oggi c'era un bel sole, dico la verità. Era una bellissima giornata. Ciao Claudia, alle prossime. Ciao. Lui, grazie. No, non sono uscito, sono rimasto qua a Sassari stamattina a fare alcune commissioni così interne. Alla prossima ti do un colpo di citofono e scendo come l'altra volta a prendere il caffè. Ciao, un abbraccio grande, alle prossime. Vai Mario. Pappagappa, così è. Quando bisogna adempiere ai doveri, bisogna adempiere ai doveri familiari prima di tutto, poi viene tutto il resto. Basta di positivo, riprendi il vulcano. È positivo, dai. Non è che bisogna stare sempre attaccati a questi giocattolini, capito Mario? Ogni tanto ci vuole un po' di svago, una passeggiata che fa bene con la sua 50, con la moglie, fa bene perché a parte che la giornata era bellissima, oggi non c'è freddo e fa bene fare 2 passi a piedi, capito? Fa benissimo. E fa bene che faccia così, capito? No? Però se sta sempre attaccato a queste cose, noi ci chiudiamo dentro casa e siamo sempre attaccati a questi bambini. No, bisogna anche uscire e fare anche altre cose, capito Mario? Bisogna fare anche altre cose, nella vita bisogna fare anche altro. Si conferma, noi siamo sempre attaccati all'apparato, no? Tu l'hai visto che io, cioè quel poco che dormo, Va bene così, poi io a quell'ora mi alzo perché intanto non riesco più a stare nel letto e allora vi faccio compagnia, anche se qualche volta ci incavoliamo perché arriva qualcuno dalle parti di Cagliari e ci dice che dobbiamo spegnere gli apparati, qualcuno si incavola e niente. Però noi, perlomeno noi, io ti accompagno ben volentieri se dove arrivo. Poi quando non arrivo più ciccia, anche perché poi passata quell'ora anche io devo andare a lavoro, come tutti d'altronde. È positivo, ma non penso che... vabbè, non mi capisco, no, insomma, io vado a Cagliari, viaggio e... eppure anche qui di distanza, che mi sono rimasti pochi, Diciamo che in stazione fissa a Cagliari non ne senti più, qualcuno stravagante che ne è rimasto ancora, ma diciamo, perché non lo so, io non riescono ad andare d'accordo, si bisticciano, si denunciano, si fastidi, e ti dico una cosa, che a Cagliari quelli dove proprio restavano sempre minacciando, si sentivi solamente, erano sul canale 8, sempre si minacciavano con l'altro, in mezzo c'era sempre questa donna anziana, che si chiama Maria Capinera, a parolacce, a cose, che si registravano, si battevano, si denunciavano, erano da finire, che non so con cosa è successo, che con qualche sposto, qualche cosa, e l'hanno sequestrata, tutti gli altri l'hanno sequestrata, tutti i bambini, e sono spariti da e non mutola più nessuno, già da un paio d'anni sono spariti completamente, un anno e mezzo buono che non ci sono più, quasi due anni, spariti tutti i canti di stazione qui, non ve ne è più mancuno, mi c'è rimasto questo amico di Michele Polverone, Paolo Diavolo e qualche un altro che sono radiamati, che vanno sulle cose radiamaturi, mi pare di so, che stanno in altre frequenze e non entrano proprio su queste frequenze, non c'entrano, entra qualche volta questo Paolo che mi sente l'isola di Cagliari, ma entra esclusivamente a salutare a me, entra, saluta e sparisce subito, ma esclusivamente a salutare a me entra e basta, e poi sparisce subito, però non è arrivato più nessuno di stazione fissa, c'è vecchio uno stravagante, che è stravagante, c'è un po' importanza e cosa, ma uno che ne è rimasto, che non lo secca nessuno, però c'è detto un po' importante di capoterra, visto questo pranzo, che non deve essere neanche molto strano di cervello, perché sta sempre con questa portante, mettendo portante, e pensate di pigiare il buraetto, mettere fatta all'acqua e mangiare l'acqua il buraetto, perché qualcuno poi si scruccia e così. Cagliari, quel Romaldo e Gattardo di Bimia sono tutti spariti, in Camaria Campinera, che hanno tutti, sono denunciati a vicenda, si briava, ci andiamo prima briga, questa mesa che l'ha quasi sparita dalla circolazione. Kappa, uno non deve stare lì né a bisticciare e né a fare le puntiglie, no, ma io sto parlando di questi camionisti che vengono da Cagliari, vengono da Sassari e alcune volte non è che ti chiedono per cortesia, nulla, niente, entrano direttamente a parolacce, ne dicono di tutti i colori. E non va bene perché il canale non è di loro, è di tutti, e qualche volta cioè, se trovi uno che te lo chiede gentilmente oppure c'è un qualcosa, li lasciamo parlare, ma se entrano di proposito a dire parolacce e fare gli idioti, perché molte volte fanno gli idioti, che l'altro giorno uno di quelli ci è rimasto male perché poi si è trovato davanti a Giuseppe e col collega là mi ha imbottigliato e mi danno di tutti i colori nella salita di Saccaggia, però cioè, arrivare a tanto è brutto, perché devi entrare a parlare male, fare, cioè c'è la radio come ce l'ho io, non sono padrone io, ma non sei padrone manco tu, così che le cose chiedere almeno gentilmente. Invece no, molte volte sono con le parolacce, la prepotenza, e allora giustamente noi continuiamo a parlare e facciamo finta di non sentirle neanche. Tutto lì. Può capitare, già ci sono, c'è sempre la gente, anche i camionisti ci sono stravaganti, io lo sento, io a me non mi piace prendere la parola a nessuno e niente, io entro, posso scherzare, posso fare, ma non prendo la parola c'è mai a nessuno, non è da me, dai. Me lo spiega a me dove mi passo e cosa, che ci sono stazioni fisse e cose che mi sentono da lontano. Certo, fanno una cosa per salutarmi, per cosa, capito? E a Marupio, Terrazza, quella zona lì. E però sono, dai, entrano con i camionisti, parlano con i camionisti, sono diventati amici anche loro dei camionisti. Perché se non, ce ne sono tre, questi tre, o fa vedere il traetto, fa vedere pure i camionisti di passare in chivi. Questo bisogna tutto vedere, capito? Bisogna vedere. Ma Volca, io mi ricordo anni addietro quando c'era Messicano, Barabba, c'era Paolo che veniva da Balisi con la sabbia, c'erano tanti camionisti, però ci facevamo compagnia quelle ore che eravamo in attesa anche noi di andare al lavoro, ci facevamo compagnia sino a un pezzo. Niente, qualche volta ci siamo pigliati anche al caffè, niente, non per quello uno lo deve pigliare a parolacce, invece ce ne sono molti che molte volte buttano le parole così e non sanno che stanno parlando anche loro con i suoi colleghi, capito? Perché la mattina c'era Giuseppe, poi c'era, come si chiama, l'amico di Giuseppe che quasi capita che viaggiano quasi sempre insieme, e niente, si sono incrociati con quello lì e ci è mancato poco che lo pigliasse pure a schiaffi, perché non è giusto che tu entri in frequenza, ti metti lì a minacciare, a dire parolacce, che poi non è che ti riempiano la pancia le parolacce, è sempre parte dell'educazione della persona. Gappa gappa, no, a me quando vi sento, te, Gippone, il coso, quello di Buduso, mi sembra che molte volte muoveva la patata, e da Plague, diavolo o diavolo, boh, adesso non mi ricordo. Parlo un pochettino con tutti, io parlo con Ociri, parlo un pochettino con tutti perché da qui me lo permette. E positivo, e Pietro, dimonio, non diavolo, dimonio. Sì, vabbè, è la stessa cosa, io te lo detto in italiano. E positivo. E vabbè. No, io ripeto, in camion perché ho più amici, facciamo il viaggio assieme, parliamo viaggiando, dai, ci passa in camion per... a casa di meno, già entro, adesso perché c'eri tu stasera, ho detto a te che c'eri tu, via dicendo, sono entrato, dai, poi è entrato Claudio e via dicendo, dai, già, non so, già entro per cui con te. Mario, tu lo sai che tu come te ce ne sono pochi in frequenza, Sinceri e onesti come te ce ne sono pochi in frequenza, Mario. Già ce ne sono tanti, non è così, perché c'è Falchetto, ce ne sono tanti che entrano, molti non entrano perché, diciamo che così, qualcheduno ha un pochettino quasi suggestione, perché l'altra mattina, per esempio, tu non c'eri, era entrato anche Natalino, è entrato Coso, è entrato Gian Maria, gli ha fatto uno o due passaggi, e niente, però ci scambiamo così, il buongiorno, ci accompagniamo per un pezzo, e poi... tutti quanti abbiamo i nostri impegni e non è che stiamo sempre in radio, va. Lo facciamo uno per passare l'ora e due per essere anche in compagnia, anche se a distanza. Siamo in compagnia perché scambiamo quattro chiacchiere, diciamo due maggianate e così via. Positivo Mario, faccio un attimino di bianco a Mario, che come dice qualcuno vado un attimino al QTH piccolino. Gappa gappa. Oh Mario, ci sei ancora? perché ti si passa che sono ruscio. Vabbè, Marius. Allora, Luca, che te sei conveniente? Suicidato. No, stavo provando, era in stand-by. No, mi sono suicidato. Ho fatto un pisolino. Lui è andato. Oh, vera vera. Ma che cosa? Avanti. Ma che cosa? Avanti. Ma è suicidato. Ah? Ma è suicidato. Che sei citato io? Ben sveglio, ben svegliato, come te lo devo dire, in arabo. Ho un buon preso, ha caito. Siamo di oggi, e mi pare io. Ma mi è sempre qua, beh, passato sei da poco. No, sono andato a fare la commissione, tutta l'altra zona. Vabbè, ma rialzate potete farci un salto. No, era il motorino, Mario. Ah, ti ha pagato il motorino. Il motorino, Mario, si sente, Orca miseria, orca la miseria, si sente. Gappa gappa, vabbè, non è facile il motorino, È facile da dirsi, ma non farsi. Infatti. Gappa gappa. Ma pensavo che eri passato, così ci metteva a posto quella situazione, almeno mi è andato meglio a me. Non ti ho pensato, ci potevo dare l'M300, però non lo so, vabbè, anche lo spinotto è diverso, là. Era a quattro punte, c'è sempre da fare la connessione. Gappa gappa, Mario, non c'è problema, la portiamo a vedere a Pomponi ogni settimana. Come vuoi, non c'è problema. Gappa gappa, no, perché adesso ho notato che si è abbassata la luce, meno tu, si è abbassata la luce dell'apparato e non vorrei che si stia guastando l'apparato. Gappa gappa, ma stai attento perché c'è. Se ti sei rovinato l'apparato mi dispiace perché, insomma, non è che un apparato lo piglia e lo cambi così, no. Ci sono i soldini sopra. Gappa gappa, invece porto tutto e niente. Ma è strano che lo stia entrando Pomponio, boh, strano, Non piatto mai. Sì, non lo so manco io che cosa ci abbia, Perché di solito entrava per farmi sapere, anche perché a lui gliel'avevo detto, farmi sapere per l'apparato, ma ha detto sì, però poi invece sì, un corno, perché io ancora lui non l'ho sentito. Ma lo era già arricciato. Non lo so. No, scherzo, ma ci mancherebbe altro, dai. Magari non è a casa, ma non lo so, non saprei, veramente. Sì, se non avessi certo col fratello, hai dato qualche cosa da tuo fratello. Già va. Tutto può succedere, lo sai, no? Mario, nella vita siamo soggetti perché può succedere di tutto e di più. È vero. È vero purtroppo, Mario. Gappa, siccome col fratello non è che vado molto d'accordo, capito? È così che a volte possono nascere quelle piccole incomprensioni e tutto va a farsi friggere. Gappa di Rogero, bene fritti, va, speriamo tutto positivo e non negativo, dai. Come diceva quello, speriamo sempre bene. Gava, ma Gigino non c'è più frequenza. Ma Gigino ha detto che stava facendo un attimino di bianco, che doveva andare a Cucciacca, però poi non c'è più sentito. Gava, Gava di Rogero. Va bene così. Ma di moglie di non lavoro oggi di meno che pagava cioè questi. E come dice la cappella, no? Noi siamo qua. Infatti. Sta manca. Napoli dico, sta manca. Se mi vuoi trovare io sono qua. Allo. Tappa di oggi. Tanto per dire, no? Vale. Sì, si dice tanto per dire. Allora. Così è Mario, è così. Ho un piccolo presentimento, che questo apparato mi sa che sta andando a farsi benedire. Ma speriamo che non sia quello. Ma anche il mio, quello che c'è in riparazione. Stava modulando, poi piano piano si è abbassato e si era andato a farsi benedire il coso, il modulatore dell'FM, della M. Ci avagava e non vorrei che stia succedendo anche a lui, va bene, ma già si può riparare tutto, dai. Ti devo fare un affare io, non lo vuoi fare, te li conservi, ti compri i 5 patti di vino, te compri un litro e te li conservi. Posso fare un affare, i gatti, ma la bocca a bici animali. Fidati. Io ce l'ho 87, non è quello il problema, che il Mobicon è omologato, capito? Ce l'ho in concessione. E quello è il discorso, Luca. Ma non è il problema? Il problema è che se qua mi viene il controllo devo presentare quello, e quello è il discorso, capito? Beh, scusa, non è il problema. Se riesci, va bene. Ma stanno per i pallucci, no, vero Mario, ci siamo usati una roba di pallucci a nessuno e si chiama l'acqua, la lavorata. Non è così, no, non è così che funziona la Luca, non è così purtroppo. Vabbè, non è così Mario, libro 2. Ma che è quello importante? Che sono già pallucci. Continuare, a me ricopro il QRM, come sei sincero. KK. A fortezza di gruppo, lì copre la giura della volta, mi sa che mi sa per catturaggio che ci per prendere la portanza. Catturaggio, vai, ho catturaggio. Io sono vergognato, penso di entrare con questo portante a Santiago Nova, non per fare la gente che rimane una scala, cazzo. Mi cura più giù che mi vuoi. Ah, va anche nel culo, va. Va a segnalarlo, era qualcuno era fatto perché ha attaccato, ma... Ha sentito l'ambulanza già. Ogni 5 minuti. Cazzo, qua vicino a me. Ogni 5 minuti, ne ho 4 uscite io qua. 4 mio cazzo, una cosa allucinante. Ehi, non posso immaginare. Prima trovo la drummita, crocro. Lo sai che mi è arrivato un messaggio da qualche testa di... Vabbè, di puntini da su Skype, però Uniti non è italiano, è mai scritto in inglese. Claro, quando ti arrivano a nulla, non accettare niente, non cliccare niente. Forse ieri parlando con voi, buonasera, io mi sono allontanato, ma ero qua, e mi stavo cambiando. Ho detto, ieri sera, mentre stavamo chattando, cos'era che mi rimandavano? Andavo a vedere il cazzo della, ma una room in inglese. L'anno dopo la buttavo fuori, me la fotti tutta. Se non fa vedere in italiano, io in inglese, ma vedo giù, vado giù in briaco. Riprendi, fa che? No, e io confermo. Io l'inglese va a vedere giù in briaco, ho già arrivato. No, claro, ragazzi, tutti parlano di Skype. Cosa c'entra Fantac? Fantac ti invitano perché la lista è aperta, è normale. Se tutti nella lista non ti invita nessuno, capo. Vabbè, su Skype o no, Luca, comunque. Mi invitava, non mi invitava, alla fine non la giungo più più e ci sono andato a tutto un bello, facevo i ticchi. E prendi male, io mi sto sempre preparando, eh. Adesso c'è qualcosa qua vicino. Quello lampeggiante dall'altra parte, ci sono stato un caso lungo la chiusura della rotonda. Oh, cazzo, dammi, ma difficile quando la mascherina, dove sta parecchio, c'è la manopola. La mascherina non penso sia difficile, ma io c'è come dentro, un bel, nello Smith. Guarda, io dico la verità, non ho vergogna a dirlo, a me me l'aveva fatto Franco. Quella mascherina lì, se la vedi, è quella verniciata, me l'aveva tolta Franco e rimessa, capito? Perché è una grandissima rottura di palle, ma un bel. Cazzo, polvere dentro, dove sei che avevo fatto con Franco in radio? Mi pare mi l'ha fatta 10 mesi fa. Un pochino di polvere dentro, claro. Mamma mia, cazzo, devo smettere. Aspetta, mi passo un dito, la forza nuda. Vedi, un pochino di polvere dentro. Ma poi mi interessa, come esce la manopola? Quella sto come costruire, non so come arrivo, quello. Lasciamo tranquillo, capito? Cappa. Guarda che la manopola c'è un buco, in quel buco ci vuole una chiavetta blu. Io non ti dico niente, non voglio lamentarti da voi. Tutto facile, però ci sono molte cose difficili. Non lo metti in giro tu. Fai allungarli tutti i pulsanti, ok? I potenziometri che ci sono, la manopola è tutti i pulsanti. Non li usci fatti lì, a tutti lì. Quella arrivare a togliere con la mascherina devi smontare all'interno tutto ciò che c'è all'interno. Quindi un lavoro di pazienza, molta pazienza e molta attenzione. Poi la radio è la tua, fanne quello che ti pare e ti piace. Ah vabbè, grazie. Noto che, vabbè, ma anche è più facile, no? E vabbè, non è problema. Io posso bucare, non la vanno, ma manco se mi paghi loro. Ma mi buco la chiavetta blu, non so che comunque neanche il numero sia. Ma sei sicuro che la chiavetta blu la rocchi? C'è un buco, sì. Vabbè, comunque mi procuro la chiavetta blu. E poi, non è stato anche domenica. Ci sono tre punti di retro, carate dei battiti, va bene. Mi è capitato anche... Non è mai successo. Ho il telefonino, lo sai, questi punti di cazzo tu volano cazzo, lo so. Ho dovuto fare la plastica, con l'ago, proprio non so, l'errata, mi sono riuscito, e ho rimesso a posto dove la piva. È un buon modo adesso. Lu, io ti e ti giuro, e non vergogna, ribadisco, non vergogna a dirlo, non agio mai smontato. Ho sempre portato la gente che è più pazienza di me. A me, la Giuseppe Vicchio, mi sono arrivato, c'è la smontana e tutto, non è per il frontalino dietro, c'è una piastra attaccata, dove ci sono tutti i comandi. Se sbagli paghi, poi io te lo sto dicendo, la radio, la tua, fanno quello che vuoi. Poi non lo gioco. Riprendi Mario. Un bel pignolo è che su Lucca, il cattolo è da me, la vecchia di ingrandimento, la pisata, il bambino che vedrà, ha un granellino di giù, ma la vecchia è lo spitter, il telefono è trasladato, Lucca. Claudio, io ho aperto telefonini costosi, di guasto. Piano piano, sempre con... Infatti una volta mi è capitato un telefonino, mi ha trovato lì dritti, non lo abbia, il comandino, c'è un comando sopra, no? Quello voleva sollevare, la messa in cassa, e era anche quello, non lo abbia, siete un po' di cacchio questa cosa, mi ha già lasciato così, ho detto. Come siete controllo sopra c'era una tipo come dire una un tappo ecco ho fatto quel tappo e sotto questo tappo qua c'erano altri due vitti però la gioventù io per fuori costava un pochino di soldi poi lo aprilo perché non si vedeva il display mi sembra se non mi ricordo sai come non ti cade in terra succede il patatrac l'avevo messo a posto anche in più l'avevo tutto pulito. Come sono riuscito? Ma mi stava arrendendo la verità. E arrivo a qualcun euro, ci sono pochi, a qualcun euro mi dai il pulito di busù, a posto, vabbè. C'è anche a posto, là, è pulito dentro. Lì ci sono le schede di ricezione dello smitter, e non solo. Ci sono le schede dei trailer, perché quelli trailer sono le schede. C'è la scheda del VFO. Grande, c'è la scheda del VFO piccolo, devi stare molto molto molto attento. Io continuo a dirti che non ne ho mai fatto, non mi interessa farne. A me le radio me le ha sempre aperte Carlo di Chiaramonti, IS0 Corrivo Doppio, e Massimiliano IS0 GUP, punto. Io non ne ho mai fatto. L'ultima che ha voluto fare Franco l'ha fatta bene perché ha molta pazienza, non le devo dire niente, ma l'ha fatta lui ed è proprio quella che stai usando tu. Ok? Quella, quindi l'avrà fatta, non lo so, prima di Natale forse, una cosa del genere. Era qua, ma è toccato smettere io più là. Allora, ce la fa, sì, scatto tutta l'attrezzatura, ci vuole la chiave, io te la do la chiavetta, perché c'ho tutto di quelle radio. E non l'ha fatta lui la verità. Però io non ne ho mai fatto, perché non ho pazienza per fare quelle cose. E poi non ci vedo un cacchio. Quindi se te lo vuoi fare, ribadisco, la radio è tua, ma c'è stato il tuo Mario, appena di affattire. Ci ha problemi, i problemi sono i due, a me non mi interessa niente. Ok? Due secondi in bianco che mi metto la camicetta pulita. Ma non ti preoccupare Claudio, non ti preoccupare, tranquillo. In casa bisogna. Sto colpa che di Leandro ha spaccato il naso. La pagava. Mario! Dimmi! E tanto, tanto. No, che lo so a me. Lo so che io chiedo quello che ho visto e poi vedermi con voi. Ma mi dispero io. Allora, niente disperazione, qui è tutto tranquillo. Va bene, veda, già va bene così. Allora, tu dimmi che non va bene, né, sigaretta, un caffè, vino, tutte cose. Lo che ho deve mancare mai, guardi, così è. Papà. Va bene, veda. Se manca chi su, no, deve essere un problema a me, lui. Sì, ho grido io. Questa è la vista come organizzata la mia parola. scappa. Così che vuole Mario, così. Riprenditi la Luca. Bene meda, sperando che tu lo ascolti, cavallo. Vabbè, un casino, mamma mia, mi sono appuntito, appuntidos. Bevo un caffè, però un caffè non è buono. No. E tu mandiamo, insomma, questa visuale, che cosa hai, un fino, mi detto. Ma così non l'abbiamo sempre, va. Quattro centesimi. pigliazzesco. No, con gotte. Sono led. Zitti, zitti. Io c'ho un coso, no? Di nuovo di Pasqua, Mario. Qui così di nuovo di Pasqua, dove non ci metto una sorpresa dentro. Le zitti, i bulloni, i dadini, di tutto va a scrivere. Ma il clima, cosa non chi? Avanti, tutti i vitini non mi servono, soprattutto quelle piccoline. Cappa cappa, beh, sono le cose piccole, visto che tu ti affetti un bel con quella cosa lì. Quando mi gara, io mi posso anch'io la vita. Lascia vedere, perché un'altra. No. Mario, ora si riesce a procurarmi un pezzo. Vaffanculo. Si riesce a procurarmi il Motorola, sai che non dispiace rotto, non ne frega niente. Il Lutre, l'aereo, che qualcuno vi sia. Se riesci, ma ci ti capita. Motorola, V3, quelli piatti piatti. Già ho capito, già, quelli tipo Dolce Cabana, là. Bravo. Giulia, è difficile trovarli quelli, non è facile, eh? Capaggio due io, è difficile trovarli. Io lo stavo telefonando, non c'è un auricolare. Roger, ho ripreso, salutoni Roberto Quadrato. Buonasera. Anche che c'è un giocatore della partita che gioca con l'Udinese, si chiama Quadrado. Quadrado, quello è bravo, Era ben deciso che avevo all'Inter, gatta. Come hanno fatto Quadrado? Ciao, va bene. Andava bene bene, Robè. Tutto Roger? Diciamo di sì, quello che è Roger è Roger, quello che non è Roger è pazienza. Chi c'è? Ho sentito Luca, ciao Luca, poi chi c'è? L'altra gente. Mario Marcel. E niente, Mario, sì sì. Kappa. Salutone Roberto, ben entrato, cambio basso. Ecco, allora mi sono ricordato di fare un piccolo lavoretto. Devo fare un piccolo lavoretto su un mouse. Vabbè, c'è Roger qua, 9 più 30, Kappa. Andate, anche a te sto rapporto, anche di 9 più 30. Vabbè, quanto ti sta arrivando io? A picchi positivi 35, Kappa. Pensa a cosa per te, Luca. Sei un pochettino più basso di Luca, tu 9 più 30, fa che? Kappa. Tu lo stesso sei abbastanza buono, perfetto, e Kappa. Ho spostato la cassa perché ho fatto uno spostamento, qua mi devo di nuovo riabituare, c'avevo tutto spostato dall'altra parte, nell'altra parte della testa, ma adesso me l'ho messo qua, proprio attaccato alla rece, mi abbassate delle volte, se no mi vedo di solito 2-3-3. Io parlo a bassa voce. E anche io, addirittura sono seduto e il microfono è al secondo piano. Io. Come detto che Roberto... in questa posizione qua sempre con le orecchie già va bene con quella radio. Aspetta, vuoi sapere il livello? Sto troppo basso, te lo dico subito, parla e vai. No, sto chiedendo se va bene che non spacco le orecchie a nessuno, perché io sono seduto, sono davanti al computer e in alto al secondo piano c'è il microfono. Ah, tutto bene Mario, non c'è problema. No, perché come hai detto tu non vorrei romperti le orecchie, Kappa. Ma c'è, già non sei tu che le rompi, perché già ce ne sono altre, dai, più forti di radio che mi facciano le orecchie. Da sei tranquillo, tu dai. Facciamo una chiamata sul 21, se c'è qualcuno nel frattempo, attenzione nel 21 chi vuole entrare. No, questi qua poco fa stavo ascoltando sul canale 40, uno Santiago 9 e l'altro Santiago 6-7. Stazione base però probabilmente erano lontani, non so di che zona erano, però non ho chiesto niente, lo sono ascoltato. Anche io Robe li ho ascoltati, stavano parlando di Pastorizia e compagnia bella. Ehi, di arattura, di frumento, di grano, un bel di roba. Poi erano stazioni fissa, non erano camionisti. Cappa, non fermo, è stazione fissa senz'altro. Ho fatto le orecchie di Puercos. Comunque Lugani ha perso, Lumina l'ha vinto, l'Inter ha vinto, la Roma ha pareggiato, alla fine l'Inter, il Napoli ha pareggiato, altri risultati, buh, stasera c'è Juve e Palermo, se vi interessa qualcos'altro ditemelo. Ma la Juve alle 8.30 gioca? Ehi, a 9.15 contro il Palermo. Mamma mia, sono salita a Biglia, mica Palermo è forte, Ma anche la Juve adesso sta ingranando, dai, sono un po' più convinti della loro. Mi dispiace per l'Inter che all'ultimo secondo ha preso attraverso l'Udinese, se aveva pareggiato andava a coso, a 2 punti in Mina, 2 punti, la Juve ne ha 4-2, sì, a 2 punti. Kappa. Ah, perché ha perso l'Inter? Ha vinto 3-2, però ha rischiato di pareggiare l'Udinese all'ultimo secondo, ha preso la traversa. La fottitura che Romina si è infortunato a patto, un infortunio grave, speriamo che riprenda quanto prima, se no è un problema, non penso per il Manchester ce la faccia, però per il campionato, per il proseguo del campionato. Non è un infortunio grave, speriamo tutto bene, se no è un casino, Si è fermato, stava correndo, si è bloccato e si è messo a piangere, al dolore, al muscolo, deve essere uno stiramento o qualcosa del genere. Senz'altro stiramento, quello è male a passare. Non lo so, stava piangendo, infatti si è buttato in terra subito, hanno buttato via il pallone, hanno bloccato subito il gioco. Vabbè, parliamo di altro, vediamo un pochettino Luca, facci sognare, io fatti intendere il gingolo. Facci sognare. Poco da sognare c'è. Stavo cercando una cosa qua. Una volta mi ha posto un mouse. Comunque abbiamo vinto, sì, l'Inter ha vinto. la Juve è finita. No, la Juve gioca stasera alle 9:15 col Palermo. Dico una cosa, lui adesso c'è un alimentatore della Zeta Gitto, così. Io? Con cosa lo sta alimentando? Un alimentatore della Zeta Gitto di 50 euro. Ma di quelli a lancetta, con la lancetta facciamo lo strumento o senza? Lancetta. Regolabile la tensione o fissa? Regolabile. Ah, c'è, al perometro e voltmetro, solo cosa? O solo voltmetro? Tutti e due. Davano bene, io uno piccolino, anzi non sbaglio, ne ho due della ZG piccolini, uno da 7 ampere e un altro da 5, che lo uso per altre cose. Ma già funzionano bene, sono abbastanza robusti come alimentatore. Però c'è la ventola quello. No. Guarda. Non è uno switching. È meglio, anche io, quello grosso che ho io, questo giornale sono a 60 ampere, non ha di ventola, sono i migliori, che sono quelli sovradimensionati non ne hanno di ventola. Quando c'è la ventola vuol dire che sono tirati il collo gli apparati. Cappo. Io mi ha detto che lo ordino, lo switching mi serve. Ma 30. Mi zippi, lo chiudiamo. No, adesso, quindi là. Chiamo. Posso chiamare alla tecnocomunicazione e pagare a con arrivo a casa, capo. Sì, stavo mandando un contrassegno. Ma guarda Luca, a parte che sono contrario agli switching, comunque se vuoi risparmiare e vuoi avere cosa leggera vanno bene gli switching. Però ti hai presente 30 ampere e 55 ampere, mi pare che siano 15 euro di differenza. A quel punto bisogna trovare 55, così non sta ogni 5 secondi attaccandosi la ventola. E vabbè, poi ci vuole attimo, non attaccando tanto. Vabbè, ma è sempre meglio avere, si deve attaccare anche altre apparecchiature insieme. Io con questo attacco tutto, mi immagino un po' che roba attaccata. Se lo vedi un giorno ti faccio vedere cosa ci ha attaccato Luca, ti metto le mani in testa. Non posso immaginare. Non posso immaginare. Vabbè, però piano, vabbè, dai. Dimmi una cosa, vabbè. Aspetta. Come si chiama? Quale c'è la bruvola là, la roppola del capo? Che non è la che va bruva, lo sai? Buon aspetta, guarda, un secondino, dammi, te lo dico subito. E di due? Allora Luca, non vedo l'entrare la moto perché c'è poca luce, però aspetta, prendo una lampadina piccolina, dovrebbe essere una 3. 3, nicchietto, io faccio solo una 3. Ma è una 3 di occhio, che non me lo faccio qua. L'ho messa qua. Ai, la bagassa. Aspetta la parola. Mi hai fatto un lago in mano. Ma che numero è questa qua? Non lo vedo il numero in occhi. E qui la parola non la 3. Sono la 4. Ma la faccia la 2, non beh. La faccia ancora più piccola della 2. Di che cosa? Allora, se sono misure tox sono 10, 15, 20, 25 a salire, non c'è 6 tox. Quello francesi, allora questa c'è lì che mi fa aprire i telefonini, sono francesi, inglesi, tedeschi, tox, sono misure tox, si chiamano francesi, dai, chiamiamoli volgarmente francesi, e non è Luca, no, non può essere. Allora, c'è la T5, la T6, la T7, la T8, la T9, la T10, io con la T6 levo la manopola, a scommessa. Il gioco alla radio, va. Ah, ma di Tox stai parlando? Sì, di Tox, sì, sì, no. No, pensavo sei dell'altro tipo esagonale. Ah, no, no, no, ci vuoi io. Ho fatto i marocchini, Bellini. Bellini. Mi se mi vuole Claudio, io magari vogliamo fare, ci sono i servo. Ma che c'è ragazzi? Io ce l'ho. Come metti dentro quelle... quella cassettina che c'ho dentro il... Ce li ho, ce li ho. Sì. Tosse, c'è a me delle mette più grande. Comunque una T6. Sì. E poi in quella buca normale una 3. Una T6. Prendi cacciamite T6, lo metti dentro e te la svita. Aspetta che stanno chiamando, un attimo di bianco. Aspetta chi chiama? Mi sentite anch'io, stanno chiamando. Sono ragazzacci, avanti, chi sei? Avanti. Vabbè. Prosegui Luca. Sono Tox comunque, infatti non è una brugola, credo, mi sembrava strano. Non li ho mai tolto, ma stai attento Luca, tu che ne dici così, non sono giocattoli. No, no, no, no, no, attaccato, c'è un po' di fuoco, stavo, sta radio dentro. Non devo smontare nulla. Non devo smontare tutto nulla. Troppo la cosa la prende. E ci vogliamo qua? Niente, no, no, sono solo chiedendo il buco. Fateci tu buco. Chiama, insomma, chiama il buco, la cosa è piccola, lo stesso, ma non va bene. E poi ci ho pensato, ma ci facevo io, compati quando, qualche mese fa, a Marocchino. Questo buco è 2 euro. No, mi vuole là, no, no. Dai, mi voglio non mangi, 7 euro. Ma no, no, 7 euro, io guadagnare 3 euro. No, no, niente, ciao. Si vuole andare, guarda, vieni, 7 euro. L'altro sono andato a quel negozio di coso che ha aperto Bricomè, mi ha recuperato 10 cacciaviti, ma belli, non cagati, 4,90 euro dentro una busta in offerta erano, belli belli, 5 a taglio e 5 a croce, di tutte le misure, me le porto qua a casa, me le ho messi, quando mi serve qualche cosa ce le ho pronti. Ecco, magari tu vi, massimo, che ho appena chiamato il mio valigio, avevo una cassettina, ce l'avevo pure, vabbè, mi viene bigliata, ci vuoi fare di lei, ma cosa c'era la pesca era, ti fai ordinati, ma poi ricordi proprio me, tutti me spero, a solito me ne sono spariti, non te ne dico qua, non passa più un cazzo a nessuno, capito? Scusate ragazzi, intromissione, non esco al baracco. Ti stai uscendo bene, dove ti trovi? Qua Santiago 8, Radio 5, tendente al 5, dai. Sì, sì, ormai ti dico chi sono, mi dici cazzo, però adesso sì, ti voglio attuare, stiamo provando sempre i baracchini. Ah, benissimo di Muno, no, stai andando bene, dai, io come arrivo lì in quelle zone? Io ho cascato abbastanza chiaro, c'è un po' di disturbi, non so se sia l'aria, e poi a parlare e ti dico come sto uscendo. 1, 2, 3, prova radio, attenzione al canale 21, Roberto da questa parte, città di Sassari che chiama. 3, Santiago 4, Roberto. Sei un attimino piccolo tu per ricevermi così basso. C'è un baracchino, un ala 48 plus, lo stiamo provando su un fiumino a collegare, ma abbiamo un po' di problemi con un micro lineare che stavamo provando e poco fa provato a chiamarmi giù per entrare nel croale, ma non riuscivo a prendere, adesso sono sopra delle cime, diciamo, io sto sentito. Allora ti ho sentito prima, no, ti ascolto bene, come radio va benissimo, bella chiara, pulita. Ti rilancio a Claudio e poi a Luca, avanti Claudio per l'amico demonio di Broale. Sì, Cossello, che per ascoltarti io non ti do 8, ti do 5, però arrivi benissimo, non ci sono problemi. Un attimino, per me che devo rispondere al telefono, riprendi Luca. Ma qui intendo, ma sa tu chi è? Diablo da Praghe, ciao Diablo, buonasera, ben sentito, K. Ciao, ciao, ben sentito anche a voi. Comunque adesso, volevo, mentre voi state chiacchierando, volevo smontare qua il 48 plus e voglio piantarmi un altro, per vedere se voi mi... con la stessa posta, ecco. D'accordo, fai pure, noi siamo qua. Vai... Tornato. No, la radio è molto bella, ma che microfono stai utilizzando? Bella pulita, chiara. Beh, penso, se no ancora ci sei. Forse non sta più parlando, vabbè, riprenditela Luca. Luca. Aspetta, vediamo se il demonio c'è ancora. Ci sei il demonio? Sapete un nome attivo, Mario. Avanti, Mario. È bello, sì. Allora, è bello, sì. Ogni nome attivo è bello. È un demonio. E vuol dire che è sempre ben arrabbiato. Avvero, io sono la strada di chiedo che si fa chiamare il carburo, mi va a trovare di chi sono me altri. Quadra, parla davanti al microfono, non ti girare dall'altra parte, che se no sparisce la radio. Ma mio? Allora io. Ancora Mario? Ma se tu va bene, così sei bello, chiaro, forte. Ma se ti giri la testa in quel microfono non si percepisce nulla quasi. Guarda, probabilmente non avevo schiacciato bene il tasto, Mario. No, sono sempre nella stessa posizione. Sì, ma sono bene, lo stai spingendo. Senta, sì, qualcosa. Aspetta un attimo, si arriva lo spinotto. Adesso meglio. Mi sentite? Sì, Masso. Ma Masso di cosa? Di micro, di radio? Ehi, è Masso, sta spingendo. Sia come se siete senza approccio, mi. Ah, infatti sono senza approccio. Adesso mi sento. Ammazza, di Nicolaria. No, non sai cos'è, avevo schiacciato F-lock per bloccare, per vedere la misura della cosa, della, come si chiama, della chiamata blu, ho messo F-lock e poi non mi sono accorto, ho schiacciato anche il processore, infatti lo riprendi, qua tutto a posto. Vediamo se Dimonio mi ascolta meglio adesso. Dimonio, mi ascolti? Infatti mi stavate facendo spaventare, dice, no, qui la lancetta funziona tutto, buh, che strano. Già poco fa, ieri ho fatto danno, ho toccato il potenziometro della tensione, mi ha girato 18 volte questa parata. Grazie. Stai attenti, mica, quello è troppo sensibile, come l'autobus, siccome l'ho messo sotto in un angolo, proprio un piedistallo. Però, cacchio, mi è caduto un affare sotto, come ho toccato, deve essere col braccio, l'ho mosso, è troppo delicato. Demonio, mi ascolti o no? Mi metto un po' disturbato, ci tu mi pare che stanno, stava arrivando Santiago, lui con un arancoso, alla 48 io arrivo in dico, dice quasi 5 di radio, mi pare che strano. Lui era perfetto, con un antennino. Ma è tutto a posto, no? Luca, vediamo un po'. Io me lo accingo un attimino, aiutando questo mouse, là. Sono andato in piccole, piccole, piccole. Faccio un letto, piano piano, stagno, sono andato verso il stagno. Però Luca, quel monopolone grande che stai dicendo tu, è un doppio monopolone, già lo sai, l'hai visto? Ah, quello che c'è dietro, c'è una frizione dietro, l'hai visto? Se tu tieni fermo il monopolone con l'esterno, all'interno c'è una traghiera, la vedi? Se tu quella la stringi ti fa il monopolone più duro, se la svizzi diventa morbido morbido, è una frizione quello, mi prova. È vero, ho già vivo. Ma è meglio tu lo sapevi. Io sì, perché quando me l'ha dato Claudio me l'ha fatto vedere, mi ha fatto vedere tutte le funzioni e tutte le cose. Però a me di ponermi in capo l'aprillo manco balla di camera. No, no, no, lasciamo per, non è un giocattolo, che magari tocchi qualcosa, basta che muovi appena, stacchi qualcosa, fai qualche distacco di qualche connessione e rovini tutto, lasciamo per, me la farò fare la gente pratica, non si tocca niente di lì. Dimonio, se ci sei batti un colpo. Vai Marius. No, Dimonio ha detto che stava smontando quell'apparato, quell'ala 38 mi sembra, e ha detto che provava a collegare un altro apparato per vedere se lo ascoltavamo meglio, tutto qua. Andava bene, ma meglio, quanto ne stai andando per curiosità? Io molto pochi, sono un po' in basso. Vuol dire molto pochi. Esatto, vuol dire molto pochi. Sono tra l'uno e lo zero, nella scala dove c'è 10, dove è tra l'uno e lo zero? Sopra c'è lo Smith, giusto, che ti dà la scala del Santiago, 9, 9, 20, 9, 40, 9, 60. Sotto, dove c'è quella lineetta rossa, c'è 10. Io sono con l'ago al centro, portate in busta. Su 10, se quella è il watt solo. 0, 10, 50, 100, 150, quello lì stai dicendo, tu sei sul 10 a portante multa. Carta di positivo. E ora stai andando a bomboletta, va benissimo. Allora, ho mai toccato io questo qui. Guarda, ancora a dire la verità non sono andato, faccio il mandato laterale, ma niente. perché il più delle volte uso quello là. No, cugina mia, l'altro giorno siamo andati in banda laterale quando c'era Claudio. Ehi, ogni tanto veniva a provare per farli andare, e da un po' che non faccio andare il coso io, l'accordatore, è sempre bene farlo. E quando l'avevo spedito me l'avevano tutto risistemato, anche quello lì pulito e tutto quanto, perché è meccanico l'accordatore di questo baracchino. Kappa. Adesso non lo utilizzo mai, non l'ho mai utilizzato, si butti. Ho fatto solo delle prove a mandarlo fuori frequenza per vedere se funzionava. Uso la collettore esterno, non ne ho necessità, però me lo metto perché ci ho collegate due antenne, fa la commutatore dell'antenna e poi da lì va all'altro commutatore. C'ho l'indicatore della potenza più grande e come si chiama? E lo smetto insieme, così fa tutto. Un po' più evidente rispetto a quello della piccolino dello smith dell'apparato. Di norma si fa così, in modo che sia più tranquillo in tutte le cose. Ma io l'unica cosa che stacco qui, quando vedo che c'è qualche temporale, stacco il piede della tenda e buh. E non sbagli, e fai bene, anche se c'è la dire, se ti cade il fulmine, la corrente non sa come circola, anche se ce l'hai a 20 metri di distanza, riesci a camminare nel pavimento, ti sciogli tutto chi su. Bisogna augurarsi sempre che non entri in casa, se no guai. Allora, io quando stacco il piede, il cavo cade per terra e va verso, diciamo così, verso la cucina, però la paghettina a fuoco non ce l'è, capito? No, no, non dico di prendere fuoco. Tu dai idea quanti milioni di volt sono che ne arrivano in un cavo? Quel cavo si scioglie il cavo e tutta la corrente è come che c'è un tubo d'acqua aperto. Pila e spara da tutte le parti la corrente, si propaga per il pavimento, tutto quello che trova scorre come una cosa di acqua. Poi non parliamo se ti entra nell'impianto elettrico, perché tu dici, ho attaccato l'antenna, l'impianto elettrico a chi lo lasci? Noi l'impianto elettrico già ce l'abbiamo a norma. C'è anche il calanzaio che non finisce mai, che scende lungo tutta la scala e tutto l'impianto, perché siccome parte una treccia grossa da su dall'ascensore che arriva fino a giù, e poi in tutta la discesa della massa terra ci sono gli attacchi degli appartamenti. Ogni piano ci sono due attacchi per scaricare a terra nell'impianto della casa, là. Sì, sicuramente c'è un'ultima massa a terra, però se ti dovesse capitare, fai sbaglio, perché è una cosa rarissima, entrare un fulmine, se non hai il parafulmine non fai nulla, solo il parafulmine ti può salvare, oppure la gabbia di Faraday attaccata sul volto, in giro al palazzo, in alto, nel soffitto, tutto in giro, con quello poi, e ti fa quello da parafulmine, però ci vuole sempre un parafulmine esterno. No, noi abbiamo una buona massa a terra, parafulmine non ne abbiamo, però io quando sono stato sull'antenna, siccome c'era il porto dove passare, che io praticamente sono entrato nella gabbia dell'ascensore tramite il buco che c'era per fare passare il cavo delle antenne, e io sempre in quel cavo lì ho collegato la massa terra dal calo dell'antenna alla massa terra dell'ascensore. Andiamo, vediamo se l'amico la plaga c'è ancora, attenzione plaga se copi Sassari. Misba, riprendi Mario, vediamo avanti se nel frattempo è entrato qualcuno, attenzione canale 21, chi vuole entrare avanti? Vedi un po', ma capri, io vorrei più inteso Mario. Ma era stasera, era con lui, c'era anche il vulcano, e niente, ci abbiamo fatto una chiacchierata, e nulla, poi tutto il resto è tutto positivo. Andami, va bene. No, ma che sono dopo che non lo sento. Giuseppe l'ho sentito di sfuggita l'altro giorno, lo stesso, eravamo sempre qua in frequenza, ma di meno di prima. Va bene, dai, vediamo se Luca nel frattempo è rientrato, se no riprendi tu Mario. Avanti Luca. Non ho già finito, ho cambiato il tastino del mouse. Posso andare? A posto quindi. Sì. Senti. No, va bene, Luca, ma tu dopo quando sei fermo non è quello del baracchino? No. Non te lo metti? È molto migliore, invece. Se ti metti una cassetta, anche uno di impianto serio mi va bene, di quelli piccolini, non ce l'hai. Sono piccolo, non ce l'ho grande, da 100 watt. Io ne ho di un impianto dubbi surround, una cassa piccolina di, non mi ricordo se sono canali anteriori o laterali, o forse può essere piccolina della Sony, è l'altezza dell'apparato, un po' più alto, dai, però si sente bene perché è una cassa chiusa, ci ho messo lo spinottino dietro e va benissimo. Ah, sotto barati così, non c'è problema. Sì, no, va bene lo stesso, però magari per avere una sensibilità anche per non sentire troppo il fruscio, perché con l'altra parlata è piccolino, diciamo, funziona così in cassa aperta, non ti dà la stessa tonalità che ti può dare un'altra parlata in cassa chiusa. Ora si conferma, quindi hai a posto un nuovo soffratto, ecco qua, perché c'è una tassino non andato, cioè proprio non abbiamo detto, vabbè, cribbato blu. E l'altro qua si consuma. Sono abbizzato. Tiglia. Se aspettate vi faccio risentire quel giocattolino che mi ha fatto le connessioni, quell'interpretazione base, mi computo l'antenna e lo faccio sentire. Ci siamo? Dai. Delta 2, non so se funziona anche in trasmissione, così meglio. Così è meglio. compagno tutto l'hai tolto. Adesso lo giro tutto dall'altra parte, guarda così, peggiorato. No, così è meglio. Questa posizione è migliore? Cappa, come modulazione è migliore. E dimmi un po', l'amplificazione del microfono, come bassa o va bene? No, l'amplificazione che va bene, perlomeno per le mie coordinate va bene. Cosa dici tu, Lu? Bassa come amplificazione? No, è cupa, non vuoi dire che è cupo. Non mi piace, è brutta. Sì, no, quello non sono un aiuto. Quello che voglio dire, siccome sto elevando il livello del Mickey Game, mi devi dire se è basso o posso non levantare ancora un po' di più. Se un livello è alto, va bene, ma è cuffa. Sono due figli di Dio, non comprendi? Aspetta, la bassa un po' se mi cambia. Così niente è successo? No, c'è per cuffa. Avanza un po' di livello, ma c'è per cuffa. Vabbè, se vuoi fare così, poi di qua dobbiamo metterci una capsula con qualcosa. Ma se non usarne uno con i controlli di tono. Ma c'è meglio, guarda, sono sicuro, se lì metti gli MD-4 lo c'ho io, guarda la bellezza lì. Che sta a vedere? Aspetta. Già funziona il mouse, già a posto. Giusto. Guarda, vabbè, il mouse funziona. Apriamo sopra. E c'era? Ci sono rientrato dopo. Perché sta parlando? Quando andiamo alla porta che c'era qualcuno sotto. Oh, attenzione, c'è il 21 che vuole entrare. Se tu dimondi non batti un colpo. Oh, non ho sentito nessuno. Comunque, cosa si può fare, Luca, tu che c'hai esperienza? Mettendo quella capsula microfonica del telefono va meglio, secondo te. Esperienza. Che sono tu usi a caso. Oppure magari un microfono con cambio di toni. Io sono sicuro, se gli metti le MD-4 mio lì, ora funge, è una bellezza. Vabbè, io sono, vabbè, ma non lo voglio mettere, c'ho il tunnel, però non voglio cambiare le connessioni, al limite gli faccio una prolunghetta. E poi c'ho le MB+4 e le MB+5 di microfoni. Cappa. No, però vabbè, fagli un cavettino e glieli provi, vediamo un po' come... Si funge, capito? Ma giù la mano come voglio portare il microfono da coso, da tavolo, non c'è posto, c'è un comodino piccolino, lo metto di lì, già non mi sa di nulla anche lì, già troppo metterci questo. Voglio portarmi un microfono a palmo, magari dargli modificare qualche cosa in modo che mi riapri a tutti, solo quello lì, di tavolo non me l'ho fatto nulla. Ragazza, vedi un po' tu, vabbè, vedi un po' tu il posto che hai, a poterlo fare. Io lo stesso qua, sono scarso a posto. Scarso. Andare, ascolta, no, niente. Andare, stavo dicendo, stai già pensando ad andare al mare, e lì nella città ancora. No, vabbè, non c'è problema. Non vedo l'ora che finisca questo cacchio di freddo maledetto d'inverno. Sono così acclimatato, sono un mese, mi passa, poi mi ritorna, mi viene di nuovo da freddone. Guarda, una cosa allucina. Oggi si stava bene, perché siamo usciti stamattina, sono sceso anche al mare a farmi un giro. Era bello, una bella giornata. Il mare era bellissimo, non c'era freddo, c'erano, mi pare, 18 gradi. Si stava bene. Me la diamo di ieri, a maniche corte, gente esagerata. C'era una tipa in coso, non dico il costume della bagna, ma via, i due pizzi, i pantaloncini e la parte di sopra, e reggiseno facendo frutti, mi fate dire tu. Ah, che bella giornata oggi, Roberto, bella, c'è caldo, ti posso dire che c'è caldo, infatti tu hai, guardi mi muovo, ma se metti una maletta qualche cosa è sotto, ma sono mi andava a volo, ma sai che stanno chiamando, avanti chi chiama? Sono temuti da provare, ho rimesso l'altro malachino, un index, come uscite con me con questo? Sì, va bene anche con questo, l'altro forse è leggermente più forte e un po' più forte di radio. Dai. Con il mio ascolto adesso un po' meglio sicuramente. Caspita, sei nitido, proprio alla grande. Infatti, c'avevo un tantino spento, vabbè, comunque ti ascolto bene io, Santiago 8, quasi 8 di segnale e di radio quasi 5, dai, non ti do 5 in pieno, poco fa eri un po' meglio. Ma invece sei uscendo a 9 in pieno. Poi pieno sta arrivando, va bene, ok. Ti rilancio a Luca, vediamo Luca se lo ascolti a Dimonio, se no passiamo per Mario. No, lo sento basso, Dimonio, mi senti? Ti sento forte e chiaro, tu mi stai arrivando bello forte, non vai a scogliere a farti tua. Io li trovo, non ci puoi giungere. che ti ascolta forte e chiaro, va bene come lo ascolti tu. Guarda, segnale 5, non ci arrivi, metto al QRM. Sì, anche lui sta scendendo segnale 5, dov'è che sto parlando? Luca, dove sei? Senti, non lo so come. Al monte si trova Luca, ma diciamo un po' nascosto rispetto a te, io sono un po' più favorevole, io sono zona dello stadio, dai, zona Piazza dei Segni, quelle zone lì, siamo solo un po' più aperti. Aspetti, rilancio a Mario, che anche Mario si fa sentire. Mario, ci sei? Gatta, che ci sono, vieni avanti, venù. C'è Mario lì, come esco adesso? Beh, 65, 5, radio 3. E tu sto scendendo, cazzo, Santiago Longo, radio 2. Radio 2, Mario, addirittura. Ma Baetano, radio 2, Anghini. Radio 5. Radio 5, se ho sbagliato, ma infatti Maria Sano, Santiago Longo, radio 2, infatti, troppo strano, Comunque io ti ascolto bene, Dimu. Tu dove sei? Io sono a Lima Delta, diciamo così, verso l'esterno, con la fratella. Ah, ho capito, va bene, dai. Adesso bene, cosa dici allora? Devi fare l'altro che è più chiaro come baracchino, più lungo. Fate via l'altro, questo va bene lo stesso, però l'altro era più squillante, dai, questo è un po' più basso come radio. Che microfono stai utilizzando in tutti e due? Non pischiare. Sì, ho capito, allora fare l'ascolto è migliore, dai. Un po' meglio di corso, dai. Però non pischiare l'elettro, meglio così si dà il rapporto di segnale lui, fa un po'. Ma io da quello stesso non riesco a pensare. Sempre intorno all'8. Io sento delle modulazioni molto lontane, probabilmente è qualcuno blu. Avanti, chi è che chiama? Chi sei? Mario, non sei uscito di radio, chi sei? Vedi, sono Mario. Ma non l'ho sentito io adesso, va bene, non l'ho fatta perché c'ho l'apparato che ce l'ho quasi sopra la testa, e il microfono è sopra. Grazie, non vuole che sia Natalino che non sta uscendo. Chi sei tu? Avanti, chi sei? C'è uno e non è lui. Quello più forte, avanti l'altro. Si sente uno piccolino parlando e poi ce n'era uno Santiago Nome qua, però ha dato due colpi importanti, però la radio non si capiva niente, era bassa bassa. Magari tu sì. E' questo che stanno. Tu sei di nuovo. Sono stato io, ho collegato adesso il baracchino, l'altro, dalla 48, da due colpi di microfono. Sì, però ne sentivo un altro più piccolo di te, proprio mentre la correva, e poi uno forte, più di 9 era qua. Però non so chi sia, avanti, chi è che dava l'importante? Sì, è stato importante, è un mio collega che ha piantato adesso un altro baracchino su un camion che abbiamo qua fermo in piazzata a provare. Si chiama anche lui Pietro, stanno provando a farlo uscire, non so se gli lascio il campo libero, non so se sta provando con voi. Non era lui perché arrivava abbastanza forte, però non usciva di radio, sentivo la portante ma non la radio. Eccolo qua, l'ho sentito sotto, prego per un controllino, provo a sentire. Cavolo, tu sei avanti. Chi è questo che ha fischiato? Quello che ha fischiato è di nuovo. Se è lui era 9.15. Avanti, chi era? Nulla, dai. Prendila tu il microfono di nuovo, avanti. Niente, vai Mario. Prego, mi controllo il tuo controllo. Sì, avanti per il controllo. Come sto facendo questo apparato? Qua c'è Santiago 7, tenente all'8, radio dal 4 al 5, dai, un po' bassino sei però. Comunque segnalaci la voce, sente pulita. Sì, no, è chiaro, niente da dire. Non è fortissimo il segnale comunque. Ma lo stesso apparecchino di prima, quello che stavo usando di Munio. No, questo qua è di Drago, io sono Drago. Ascolta, ma che sto facendo un rumore strano per l'ingestione, sempre per tu? Qua sta uscendo tutto bene, no? Problemi non ne sento io. Pulito, non ci sento nessun disturbo. Venga, fatti ringrazio, ciao ciao, buon rimetto. Ciao. C'è di nuovo comunque di Drago, che se lo vuoi o qualcosa di più forte, di segnale più forte, te li può dare lui. Sì, infatti, ci sono anch'io, ma siamo a distanza di 20 metri uno dall'altro. Certo, ok. Siamo a distanza di 20 metri uno dall'altro, sono anch'io qua vicino al camion che sta tentando l'altro baracchino, capito? Sta facendo un po' di prove, ma così vicini non riusciamo a capire. Kappa. Quindi non era neanche lui quello forte che è arrivato poco fa. Dai. Ok, faccio un'altra chiamata qua sul 21, chi vuole entrare, quello di prima, con la portante, se no facciamo riprendere a Luca e poi a Mario. Avanti sul 21. Nulla, vai Luca. Non so questa parola, ma l'ho risetto. Boh, vai Mario, tu. Ragazza. Io quell'altro lì lo sentivo basso lo stesso, Non è che lo sentivo molto forte, No, dice solo uno a fianco all'altro, mi ha detto, uno di lui sta provando questo baracchino, non ho capito che baracchino è, ha detto. Diciamo di radio era un po' più basso, dico, su di dei mugni, il segnale è appena più basso, uno era 8, l'altro quasi 8, dai. Certo, allora a te ti arrivano ben forte, a me ne arrivano se trago 4, 5, dipende, forse dipende da loro, non lo so. Avanti prego. Quasi 9 più 20, abbondante. E dove ti trovi? Quadrato. La batteria del segnale è forte, però se sei al quadrato non stai uscendo assolutamente. Controllati le trazionali, a parte c'è molto poi CB. Il segnale si sale e scende. Per cui se sei qua vicino dove sono io, sta uscendo malissimo, non è possibile che arrivi così, ma qua dovrebbe arrivare a 9.50 i segnali così vicini. E non senti a Mario cosa, Luca non li senti? No, aspetta, non so, un altro po'. possibile, 9-10 sì, poi scendi a 9, però per essere così vicino dovresti arrivare molto, molto più forte. Non hai antenna, sicuramente è massa inesistente. Scusate l'interruzione, l'ultimo break, sono di Morio sempre da provare, ho cambiato il baracco, come mi riesco con questo? Ma te ne muovi, sta parlando uno, un attimino. Scusami, colare il stesso antennino del portale, quindi è una gomma colare, e per questo sicuramente sta facendo questo difetto qua. Comunque è importante ascoltarti, dai. Guarda, ti sto perdendo, adesso l'ultimo dei passaggi non ti ho capito, proprio ti ho preso, se saltiamo 4, radio 1, normalmente ti ha posto l'antenna perché sta perdendo, qui ci stai notando e più stai scomparendo, per cui non hai antenna, è come che stai uscendo senza antenna, tu controlla tutto, se i cavi sono collegati bene, se c'hai qualche PL messo male, non lo so. Aspetta che stava chiamando l'amico di Plaga, avanti Plaga. Come riesco adesso con questo impianto, questo banco qua, ho cambiato tutto l'apparato? Sì, adesso c'è una bomboletta, Santiago 9 sei qua, radio 5, ma hai sollevato anche potenza. Questa qua è un'altra roba, quella che ho sopra il mio trattore, sopra la barra pesante che giro, A Vuglia, perfetta, radio, stavi sovramodulando l'amico, figurati qua, state, va bene, lui stava uscendo male, quando stavi parlando lo stavi sovramodulando, fatelo conto. La grande, allora, dai, quello che c'ho sul fiorino che non riesco a far spingere, cazzo, vaffanculo, ci stiamo provando un po', la traversa del cambio va bene, ma l'altro non ce la faccio. Fatta andare alla grande. Ti dirà San Luca che ti sentiva basso, poco fa così ti dirà qualcosa. Luca ci sei. Ah, ci sono. Ma senti tuo amico. Come no, Luca? Adesso è in Santiago 9 lui. Tu parla, amico. Sì, sì, attento Luca, 1, 2, 3, 4, Luca, canale 21. Cappa, come sei qua? Radio 2. Non ci ti trovi? A Ploane mi trovo, dentro Ploane. Ecco, dai. Poi lo ascolti bene a me. Sta arrivando la grande anche tu, dai. Ecco, aspetta, vai un attimo piccolo. Qua c'è il segnale, sì, in mezzo al quadrato, ma comunque non riesco a tirarti fuori adesso. È meglio così, dai, questo baracchino qua, quello del camion, è molto buono, vai. Dove vi trovate, vado a mano, sì, me la mettete giù a Sassari, dai. Dio, vai, non beh, questo lo riesco a tirarlo fuori, ma se lo riesco a tirarlo fuori. L'altro giorno stavo parlando con Gigi Vulcano da Ottava ed ero così chiaro come voi, Tu sei perfetto, la radio 5 è perfetta. Cambio controllo a me di segnale. No, a me mi ascolti. Sì, ti ho sentito, dove stai chiamando tu? No, Roberto, parla per parlare. No, ti ho chiesto controllo di Santiago, di segnale, se me lo puoi dare. Prova a fare un passaggio lungo che ti copio. Allora, 1, 2, 3, prova radio, canale 21. Roberto, città di Sassari che chiama? Ciao, 7, radio 4, abbondante. Ma qui ho passato, poco fa mi ha detto Santiago 9, radio 5, ho diminuito di Santiago. Ma era l'altro apparato, adesso no, questo qua è diverso. Ah, così è. Ok, chi è che ha chiamato quell'altro? Avanti che chiamava Roberto. No, chiamavo un amico, Roberto, Massimiliano Bulldog, con la buonasera a tutti. Sì, ciao Massimiliano, senti l'amico da Plaga. Bulldog, è scavatorista. Da Parrogero. Bulldog, demonio sono, dai. Porto Torres, demonio, ascolto anch'io a Porto Torres. Chiedi a Porto Torres che ascolta demonio. Sì, demonio, ben scuzzolato con la buonasera, Bulldog. Ehi, Vent'anni, come vent'anni, Tutto bene, sto bene. Ma sai che c'è Luigi che sta chiamando, Luigi avanti. Vado a piantare un barattino qua sul fiorino, ma dopo un po' di problemi. Un attimo lui che sta parlando. Fanno uscire. Allora, dato che stavo rompendo con le scatole qua, ragazzi, c'è presentiti del canale 21, sono entrato sul camion, sulla barra pesante, a salutarmi come ci trovo. Un attimo, ci sta parlando lui. Non ho capito niente, avete parlato in 200. Aspetta, Dimo, c'è Luigi che chiama, avanti Luigi. Ho detto che buonasera a tutti, io ascolto anch'io qua, però torno a Pietro, la Croaglia. Hai sentito Pietro? No, non ho copiato, chi è? Vulcano. Ehi, hai detto che ti sente da Porto Torres, per cui stai andando alla grande. Ehi, non l'ho copiato, come mai non c'è da Vulcano a Plona e non c'è dove c'è da Porto Torres? Ovviamente è in macchina lui, non è sul camion. Ah, per quello, comunque dai, non ti sento bene, comunque Vulcano, buona serata, buonasera, ragazzi. Poi come mi ascolti, Divo? Ehi, anche tu stai uscendo alla grande. A Parrogero, da Parrogero, tutto bene qua, va. Dici, vabbè, dove sei? A Porto Torres? Così ti resta. sono io, ti ascolto bene, devo, tutto a posto. Ah, meglio così, dai, buono ragazzi, adesso vi lascio, vi dico un buon proseguimento di serata, come sempre siete gentilissimi, dai, vi mando un saluto a tutti quanti, buona, buon fine settimana e buon tutto, dai. Ehi, ciao di mo, ce la riascoltiamo, buon lavoro per domani, quando lo fai, e ce la riascoltiamo, va bene. Ok, mi hai sentito di mo, ottima radio, complimenti, bellissima radio, pulita, bella chiara, vai Luca. E stavo chiamando a Luigi, adesso lo ascolta, capo. Allora, mi ascolti. Questo passaggio, sono detto che lo mette in palazzo, dai. Ti riprendo subito. Ma tu arrivi in mare qua, se no, beh, fatta, ciao Massimiliano, a te Michi, vai. Di nuovo sono sempre un po' bassino, quando l'hai scattato fuori. Ehi, a Luca, dai. Ma a me mi è rimasto il tempo 4, Luigi. Cappa. E poi il nome. Va bene. Cosa hai cambiato apparato? In macchina c'è un altro apparato. Sono in mezzo al palazzo qua. E a me mi ascolti? E secondo me la radio va bene? Sto dicendo, ma ti lascio al telefono e parlando la radio. Ehi, dai, chiedo un controllo qua a tutti, dai, che sto provando questo 2025. Abbiamo fatto ascolto la grande qua, è zona negativa, dove sono io. Cappa, da te è lui com'è? Che tu? Sì, cappa. 9 più 20 sì quasi. La radio buona, 5 buona, amplificata. Ehi, ehi, com'è da te com'è? Sempre perfettamente bella? Mamma mia, bella piena, forte, niente da dire. Ma volevo chiedere a Luigi se mi ascolta a me. Lui mi ascolti? Positivo che ti ascolto, però sono in mezzo a dei palazzi qua al satellite, hai capito? Proprio il punto più negativo che esiste. Ehi, a comunque ti ascolto benissimo, non a livello di Luca, tu hai con Santiago 9, ti do Santiago 8, radio quasi 5, dai. Ti ho visto com'è però il mondo, dai. Io che sono più vicino a Porto Torre, Santiago 5, e voi Santiago 8. Al satellite di Porto Torre di mezzo ai palazzi. Santiago 8 adesso. Adesso sei lì a 7, però prima quando stavo a parlare che tu hai detto 9, la me era 5. Infatti dico, è strano, no? Io che sono più vicino a Porto Torre, se a lui mi arriva meno come segnale, voi che siete più lontani mi arriva meglio di segnale. E a volte come radiano le antenne, hai visto? Lettere è strano, Massimiliano. Gatta, gatta, gliel'avrei spruzzato un po'. Vabbè, qua arriva 5, questo diciamo che è come segnale perfetto. Ehi, non sto dicendo niente della radio, no, sto dicendo strano che io sono molto più vicino a Porto Torres e l'ascolto meno di segnale, capito? Voi che siete più lontani vi arriva più forte di segnale, solo quello lì, basta, non è che... Comunque dai, Gigiarie, 48 special? Caffa Roggero. No, io sentivo a Pietra, di voi scendendo lì alle Leone, ricordo ascoltavo benissimo il Vettura, capito? Non forte forte, ma riuscivo a ascoltarlo, capito? Sì, per dirti ero lì alle Leone. Caffa, sì, ma lui non ti ascoltava, mi sa, mi sembra che ti ha ascoltato per un passaggio e basta. Isso, quanto è diverso in macchina, Gigiarie? In casa è tutta un'altra musica, eh? Ma adesso qua siamo un po' chiuso, dai. Più brutto, eh? Sì, secondo me sì, il cambio gira molto meglio. Ma si vede, è tra me e Luca che arriva più forte. Prova! Questo è il passaggio mio, 1, 2, 3, prova radio. Prova, Luca! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Allora, tu e Luca mettono lo stesso segnale, 9 più 20, tutte e due. Arrivate. Mario vi annienta, Luca l'ha schiacciato completamente, Mario arriva a 9.30 qua. Mario è maledetto, cacchio. Signale, va bene? Credo, Massimiliano, scusate. A Mario sto dicendo com'ero di segnale. Sto passaggio. Guarda, va bene, 1, 2, 3, 4, 5. Non va bene che la dice la bomba. Gava gava, ok. Cosa stavo dicendo? Gigi, ti volevo dire che il camion è una bomba, in macchina con la sicurezza. questo portatore sei libero. E io sono più in basso, io sono libero uguale, tutto lì, no, niente di provocatorio. Però bisogna vedere anche se Luca sta andando con quanto stai andando tu, Mario. Facciamo schiacciare qualcuno. La prova veloce che... a Mario, la verità, Roberto. No, ma Mario però niente, Roberto. Mi arriva solo la doppia V, Mario. Roberto sulla DB. Prova a me. Tu sì, no, in FM, fai che? Datemi un controllo a me, quanto sono io in FM, così, sempre con 7 watt. 9,50, a picchi 55, dammi. Raga, io? K, in FM sì. 9,50. K, non so balli, 9,50. Luca, Luia, tu verrà allenatore inserito probabilmente, è impossibile, qua arriva a fondo scala Massimiliano. Tu sei 9,50 attenuato, e sul DB senza attenuatore, Massimiliano è 9,50 picchi 9,60. Prova a parlare Luca senza, con l'attenuatore un attimino, volevo fare una prova. Vai. Niente, sempre fondo scala, sì, attenuato di 20 dB, sei fondo scala. Massimiliano, senza attenuatore, è fondo scala, oltre 9,60. Mario, la te chi passa, io Roberto, vai Roberto, parla. Attento, ma... attento Mario, se mi crepi, Luca, chi crepa? Luca, probabilmente passa Luca, ora. Io, mamma mia, non penso. Ma se ha parlato, non lo so, quadrato, però sentivo a te Luca. Però io... tenete presente che io sono modulando con 5 watt, spaccati. E anche io con 5 watt, la goda. Io con 7, io con 7 watt. Allora io sono con 10, 20, 30, 30, 50 watt. Guarda Luca, prova a parlare Luca, se mi senti, se Mario lo copro. Cioè se copro a Luca, va, attenzione Luca, avanti Mario. Allo gribo, vai, Roberto, allo gribo, cava. Alla grande, ma sei con 40 watt. La prima non era mi prendi con 5 watt, e pure la con 40 watt. E la prima vediamo che passa, farò manco in 10 coordinate. Vedi con 40 watt. Aspetta un secondo. Mario, vedi se sono doppia V, lo sai dove arrivi? E dove arrivi? Alla Luca, vai, lo passa Luca. Ma passo Mario a Luca. Adesso sono con 40 watt. Provate a fare i dati che passa. 1, 2, 3, trova 5, 6, 7, 9, 10, 15, 20. Tu ti ricrepa Mario, no, non ce n'è segnale, no, no. Sulla doppia V Mario, mi dica che più ho 4 watt, 5 watt che eri. Vedi solo la doppia V. Oh, qui addirittura al DB è arrivato. Mario, torniamo in AM un attimino tutti. Quelli che c'era quando mi arriva il mio. No, Luca, sa, volentieri, anzi addirittura il mio l'ho dovuto ricostruire, me l'ho fatto ricostruire con un cavo grosso, non so se mi ha portato da 0 o da 8, un cavo micidiale, tutto rifatto totalmente perché c'erano dei difetti, l'ho fatto di nuovo ricostruire, portafusibili nuovo, tutto nuovo ho messo, perché mi faceva del contatto, alla fine ho detto fammi un nuovo, ci ho messo un cavo grosso, non è altro, volentieri se no. Sì, va bene. Ok, era per accelerare i tempi, va bene, scusate, riprendi Luca, io so superare Luca, ti vedo ma no, non vado a manina, ciao, a dopo. Sì, a casa, la manina, la mangiata. Facciamo la prova, poco fa, Mario mi arriva a W, fa un passaggio per FM, esatto, vai, due secondi, mi dici quanti vado stai andando. Vai Dini, vai, vattene via, cazzo, tu sei più forte, tra. Dai, ti rimango in ascolto. Non c'è dato, Robe, la papà ha fatto smattere. Già lo so, 44 tira più del 140, comunque. Non c'è male, lo fa ballare, non c'è male, perché affondo, quasi sul, quasi affondo, male, dai. Ecco. Guardi. Ma scusa un attimo Luca, allora io tieni presente, senza te lo attore tutti quanti i segnali in FM arrivano a fondo scala, quelli furti, diciamo arrivano a pieno, se mettono a te lo attore tu quasi alla W, appena appena di meno, mentre Mario rimane spaccato, no? Cioè non c'è nessuna differenza, mi sembra tanto che tu a me non mi ascolti in fondo scala. No, ma non arrivo a fondo scala, prova, ritorno, vai. Ascolto proprio spacchi lo spizzo, arriva a fondo scala quando parli tu Luca, anche quando metto l'attenuatore, non proprio a sbattere, però mi sembra strano. Allora Robè, come si chiama? Vabbè, diciamo, senza attenuatore si sì, quasi sulla W, invece attenuato si sì, 960. Da parte mia Luca, tu sei W senza attenuato, proprio fondo, smalto e fondo scala, e più di 9,60, diciamo, se c'è dopo 60, se c'è 70, tu sei 9,70. E io come sono? Guarda, 1, 2, 3, prova. Tu sei fondo scala senza attenuatore, è quasi proprio un peluzzino di meno del fondo scala con l'attenuatore. Guardate assieme con Mario e Roberto, il segnale è uguale, vai. Cipolla è tutta per me. E ti rizzuba Mario, quello passi tu. Di poco lo passi tu. Claudio vicino, vi crema tutti. Perché lo fa smattere lui, non lo fa ballare. Come lo fate ballare voi? Me lo fate fare un passaggino anche a me piccolino. Tu sei 9,50, Falchetto. Ma mi passa a me Falchetto, lui. No, è 9,50 lui, ha tentato attenuato, tu sei. Roberto. Roberto. Andiamo da M di nuovo, là. Robè. Sono attorno. Oddio di Alghero, eh. E io? Dove più 20, non dici. Ciao Luca, ma anche tu mi stai arrivando a 9,10, quasi 9,5. Ciao Luca, beato chi ti sente, nel senso, anche tu dirai la stessa cosa. Luca, sei veramente perfetto. Idem tu, un patate, benissimo, chiaro, bello, radio 5, 9 più 20. Arrivi che l'ha scoprettata, veramente bene. Non ti ho mai sentito così bene. Sto usando una tipo la tua, dai. Ah, ho capito. Ma io ho guarda che ho l'antenna come l'antennino di sempre, cioè, non è che ho cambiato. 9 più 20, 9 più 20, radio 5 perfetta, bella, chiara, quella è coaro. Adesso non so se ti ascolti la M. Facciamo la prova, dai. Mandino, a me mi ascolti via dal ghetto, cappa. Chi sei? Sì, ci sono. Ci sono, ti sento. Ti sento il segnale 6-7. Qua sì, 7-8 il tuo, affesso, vai. Sentiamo 7-8, ma in FM sei più forte, non ho molto più forte. Ma me non c'è un pochino, se volete muovere in FM, qui ti ascolto la grande. Aspetta, vuol dire a me come mi ascolti in AM? Vuol dire a me come mi ascolti in AM? Un basso di Luca. Lascia. Guarda, dammi, guarda arrivo. Vabbè. Ma come ce l'hai? Dammi un controllo. No, pensavo che ce l'avessi. esatto, finalmente abbiamo sistemato la situazione. 2 dB meno di te, Emilio, meno di te, più di te, mi ascolta Luca, vabbè, io però anche lo sono favorevole. E a Maria tu come l'ascolti? E a me Mandino come mi ascolti? Prova, 1, 2, 3, la cipolla è tutta per me. Non so chi sei, prova a dire come sei il segnale di Luca. La senti trovare? Sono lo stesso segnale di Luca, sto arrivando. Cappa di positivo, grazie Mondino. Mi fate salutare una vecchia portiera di Alghero, ma se mi ascolta, non so se c'è arrivo l'Alghero. Se avete parlato in due, Cla. Un attimino, fa che? Prova, Cla. Se mi fate salutare una vecchia portiera di Alghero, non so se mi sente a me. Ciao Mondino. Ciao Claudio, saluto. Sono 1, 2, 3, 3 Maria ancora. Dove va? andare là, ah, visto per avanzare il tempo, no, sempre controlli, ti senti supero, però andare. Ciao amica, ecco, venga a casa tua, non mi ci tanto, la luce, la lumbaga, ma se tu vuoi, tocca a mangiare l'Enel, e questi un attimino, mi supposo, un attimino, sono c'è accordatore, non fa. Ti prendi anche l'accordatore? Ma lui non vuole dire come ma da casa, ma tutti gli altri. Che vai, cioè noi non gli abbiamo che vai? Ma stai in linea. Beh, cavolo, lo sa che io quando stacco di dietro, anche se è una zona alta. Ma non si manda a cura, che sto vedendo con chi sono di Montresa. Ah, gli ho detto che ti ha giunto tu. E gli ho fatto un po' di Smith e pure a Claudio. Che ti ha detto, ti finisce una metta, ti non metti più. Metti un amplificatorio, ma lo senza. Comunque Luca, adesso ti ha parlato completamente sopra, Mario. Ma stavo parlando Claudio. No, prima di te, quando tu stavi parlando, ti sentivo piccolino, lui ti passava. Non so se lui sta spingendo un po' di più di te, comunque il segnale è più forte di te. Chiaramente tu arrivavi più forte prima. Come da te, come da me, passa a te uguale. Sì, dove c'è da pici positivi, io non ho 40. Sì, ma per te è molto più vicino. Rispetto tra me e tu sei molto più vicino di Mario. Per quello dico, molte volte non c'entra niente la distanza. Perché per dire a me, Giuseppe, mi arrivava più forte di Gianni. E Gianni sono attaccati. Sicuramente, chissà per quale motivo a me mi arrivava molto più forte. Magari lui ha un varco e riesce a passare, roba del gioco. Tutto il giorno ormai è una gatta a sperare, avevamo bidrini. Sì, a Mario l'ho minacciato nel traccio il radiale dell'antenna, voglio vedere cosa fa. Lo passo. Non ne ho più. Non è più radiale, ce ne sono solamente due, né? Quando te ne vuoi togliere un servizio, scendi e guardi. Da cinque ce ne sono rimasti due, e sono rimasti quelli in direzione Porto Torres e Sorso, diciamo così, là, che poi non c'è neanche Sorso perché più che altro è contatto verso la marina, capito? È come voi, però ne sono due di radiali, adesso quest'estate le dovrei mettere a posto, almeno i radiali. Aspettate, tu vedi qualche che stavi rischiando? Ah? E chi è che stava sopra modulando a Mario? Detto, se lo passava Mario. No, sei tu no. Però c'era un altro che se ti stava fischiando lo stava schiacciando. Non pensavo fossi tu. E io lo passavo a Mario, fa che. E io. Comunque c'era un altro Mario più forte di te. Non sei più il numero uno. Ma niente, anche noi che se ne intendi una è importante. Stavi parlando Mario, c'era uno che stava fischiando sopra di te. Magari qualche uno vicino a casa tua, cosa ne so io non lo sentivo. Adesso non posso lasciare perché con Carlo stavamo facendo la torre con Davide e me l'ha messo lui a fare la parte, siccome io ho qualcosolino, non lo posso lasciare anche perché rimane un po' al buio e me li ha regolati lui, io adesso sono con 40 watt come me l'ha lasciato mio figlio poco fa. Ma fa che se tu non fai l'offre, se tu hai detto non basso, tu sei. Non lo fai quando fischi però, è un paio un pezzettino, però si capisce quello che dice Mario ancora, figurati. Oh, Mario. Ma non è tu fa che? No. Vai, non è tu. No, non ero io. Cosa tu? Non ero io. Ma tu sei qua? Come ci possiamo permettere? Mario, aumenta, caro! Lascialo così, lo sentono dappertutto e poi, ti ripeto, io non lo vorrei bene perché c'è un barattino dentro il mobile, è tutto il coso dei sbatti e rimane al buio e non lo vedo. Quando viene di nuovo mio figlio gli ha dato il negozio a comprare, me lo faccio rimettere a 50 come era prima. A cavallo del 10, perfetto, e così va benissimo. No, poco fa stavamo facendo delle prove. vedere come andava, poi l'abbiamo messo a 7 watt, poi l'abbiamo messo a 15 watt, poi l'abbiamo messo a 40 watt, ma era giusto così per scherzare con gli amici un po' e vedere un po' la situazione com'era. Però ripeto, io non l'ho mai toccato questo qui lì. Adesso c'era mio figlio, me l'ha messo a 40 watt quando stavamo facendo le prove, però quando viene io le faccio mettere a 50 che va alla grande. Roberto ti ha passato Mario, non mi dispiace dirtelo, Roberto ti ha cavallato. Ti vuole arrivare una casa buia Roberto. Cioè non me lo preoccupare di Mario. No, io non mi preoccupo mai, lui, anche se te non ho più fatto male, perché non mi riesce di io, geloso di Claudio che quando entra c'è di piace a tutti, non me ne frega niente, io quando mi sento con gli amici va più che bene, tanto te l'ho detto, la radio serve per passare quell'oretta così, ridere, scherzare e avere un po' di compagnia, perché mio figlio purtroppo non è che sta sempre a casa, no? Io dopo guardo sempre laggiù, si fece una piscina per la pari giù, e io sono solo in casa e almeno così chiacchierò un poco con gli amici, poi il resto non me ne frega niente. Mario. Speriamo che non sia grave quanto sembra. Ok, vabbè, facciamo riprendere anche tutti gli altri, che c'è anche Falchetto, ti lancia Falchetto, avanti Falcos. Ehi, ciao Salvatore, ben sentito, ben entrato. Ciao, facciamo qualche, ben sentito anche a te. Buona domenica, anche a te. Insomma, ma questa antenna è una classica, una cosa più grande, per arrivare leggermente più in alto, più il segnale, perché quando siamo qui la propagazione, oddio, non ti sento più qualche. Cappa, non c'è problema, la piazziamo, Salvatore. Già la piazziamo, dai, non c'è problema, fra poco piazzeremo l'antenna, dai. Forza, così almeno prima che inizia la propagazione, sono blu, non so come fare. Ok, e beh, qua, cosa mi racconti? Sempre con le coordinate stai lavorando? No, ma Salvatore, non so neanche io adesso, un po' in giro tra l'ufficio tecnico di Castelsardo e direttore dei lavori qua a Sassi. Un po' vai e vieni, turni massacranti e di nasce per Mattesi. Quello è, magari forse studi massacranti e aumento di stipendio sarebbe andato meglio. Ma una smart c'hai adesso, Oca? Io due, una di genere e una nera. Cappa, sì, no, fatto, non l'ho vista, una c'ha l'antennino, c'ha così, un po' di dietro. Sì, ancora c'è l'antennino, ogni tanto tolgo, lo metto. Allora me l'ho applicato nel buco del tutto, perché tocca sotto in garage alla serrana, capito? Alla fine si rompe. Ah, ok. Va bene, a proposito di smart, Roberto, domani chiamo a vedere cosa ho deciso per la domanda, a vedere se mi dai sul indietro. Cazzo, già ti decido un conto, Salvato, fatti dare i soldi, subito, e non tirarla per le lunghe, perché se si allunga è un problema grave, allora da un poco. Speriamo, soccorso, ripeto, non mi è mai capitato una cosa simile, pensare la macchina, provarla e sfasciarmela, non mi è mai capitato, Roberto. E senti cosa è successo qua? Ma tanto che non ci sentiamo, Salvato, cosa ti è successo, Salvato? Facciamo una smart anch'io, no, non l'ho fatto, no, mi tratta non c'è un cambio. Ho trovato uno, ma dice, la proviamo, uno che poi tra l'altro conosco, se non mi sarei fidato a dargliela. E ho lasciato a provarla e ci ha capottato, adesso non c'è più la macchina. E domani speravo che mi danno i soldi. Ha capottato la smart? Sì. Allora faccia il bicarbonato. Io cammino mi vuole la smart, ma la capottata la venivo. Lui era sulla strada bianca, dice che ha trovato un avvallamento, ha perso il controllo e ha iniziato a girarsi la macchina. Allora stava camminando un bel, perché anche in strada in serrato non è una macchinetta che poti uscire facilmente. Io ho due, c'è la mia figlia e io, ma ti dico che non me ne sono pentito, sono delle macchinette che insomma devi stare molto attento, però sono abbastanza robuste, perciò hanno quel investimento, perché Roberto già lo sa, tutto è in acciaio. Fu a capottare, minchia. Sì, si è capottato la mia, allora arriva la capotta panoramica, mamma. Con la mia figlia invece no, con la mia figlia è quella rigida. La mia è in vetro, minchia. Male si è fatto. No, lui non si è fatto niente. Anche quella mia c'aveva la panoramica. Però la macchina gli ha fatto danno. E tra l'altro non la va a pagare, no, adesso vediamo un po' come riusciamo. Ha sfasciato tutto la cappotta, che è panoramica, ha sfasciato, mi sembra, un fianchetto, perché la macchina, non ce l'ho neanche qua io, come ha cappottato, l'ha portata in officina sua a Valeluria, avrai capito? Boh, già capito di chi si tratta. Hai già capito, ma meno male. Adesso speriamo. Ok, riprendi Mario. Gappa, perché le macchine non ce l'hanno a provare così. Cioè, la vuoi provare, ti siedi con me, la provi, facciamo un giro e boom. Non è che uno vede la macchina, cammina a scavetta al collo, e se c'è l'acceleratore mi sono buoni tutti. E la prima mi sta prendendo più cusati, se ne vuoi, ci vanno abbastanza male con un mantinilla. Vabbè, ma non è che sia, una macchina che insomma non è che ci vuole una Ferrari, ecco, da tenere. E la sfortuna è che, allora, lui mi ha lasciato una macchina a provare, io mi ho lasciato quella a provare, ci siamo scambiati le macchine, hai capito? Però a me dalla sua non me la putti niente, perché non gli altri. le domande avevamo di sentirci per appunto per prendere gli accordi, e nel frattempo gli è successo questo. E l'ho capito, però macchina così, poi macchina di un certo valore, non è difficile avere così patrimenti, no? Perché purtroppo ogni giorno mi succedono di tutti i colori. E io non mi ravvedo, se ne macchina mia non mi ravvedo, perché la Smart è una macchinetta che sembra un giocattolino perché è piccolina, però ma la giù si cammina, gli amici c'è l'acceleratore giù qua, c'è anche un motore turbo, non è che abbia un motore di 500 che arriva a 110 e si ferma, la Smart mi sembra che voglia oltre 160, non è che è un giocattolo così, no. Mi hanno notato la mattina dalla radio, e infatti bisogna stare molto attenti. Mattina mi hanno notato dalla radio, vai. Oh, sono capo, ok, è capo. Hai ragione, va bene, speriamo di risolvere adesso. Poi sentiamo. Ok. Ebbene, Rubè, uscito sei oggi? Stamattina si ho fatto un giro, ieri ero tutto impegnato dalla mattina alla sera per questioni di sport. Stamattina sono andato a vedere quel cacchio di locale nuovo che mi ha offerto, Bricoman. Sono andato sul tardi all'ora di pranzo, se c'era meno gente, però era pieno lo stesso, ho preso qualche cosa che mi serviva, qualche occasione, e poi sono sceso al mare a fare un giro, bellissimo, il mare era una bellissima giornata oggi, proprio bella per uscire. E com'è questo Bricoman? Pezzi buoni? Tra l'altro prezzi allucinanti, cose addirittura, cioè, rimane a bocca aperta, ci sono anche mattoni, vengono, a parte le piastrelle, i blocchetti, cose di tutti i generi, attrezzature di qualunque livello, anche cose grosse, professionali. Quindi la fatti un bel gente, Roberto. Ma sai perché? Perché quando sono a Francoforte mi ha chiamato mio figlio Claudio, mi ha detto, ma c'è uno scambio al bagno, offerta 80 litri e 80 euro. Siccome noi quello che abbiamo su è piccolino, dovevamo sempre cambiarlo, perché se ti fa la roccia uno, il secondo c'è l'acqua fredda. Allora ha detto, ma mi sembra buono, prendilo. E mi ha detto anche lui che ce l'ho pezzi buoni, Sì, quello lì io ce l'ho, grazie a Dio, sta sempre andando, il mio c'ha 10 anni di garanzia, ce l'ho da quando mi sono sposato, dal 95, fatelo conto, ce l'ho da 5 mi sono sposato, sì, quando siamo, ce l'ho più di 10 anni, quello lì, e ce n'è uno, 10 anni di garanzia, lo stesso, 85 euro, 80 litri, vetrificato e titanio, dice, non so che trattamento a titanio mi hanno fatto, è regalato quel prezzo. Sì, no, d'accordo, mi sembra bene. No, noi dove lavoriamo? Ci hanno messo uno scaldabagno di quelli piccoli e noi da no. E quello ti fa la luce, la roba, se sei stato uno, il secondo senza l'acqua fredda. Allora, lo prendiamo, e c'è stata l'occasione. Adesso vediamo un po' come va, e speriamo che ti sia altissimo. Vabbè, 10 ragazzi, al limite, basta che mi faccio anche la metà. Ok, va bene, perché? Kappa, sì, in effetti quel negozio ci ha presi proprio da capogiro, è super attrezzato uno, e poi ha dei prezzi che uno può andare a comprare tranquillamente, senza problemi, capito? Riprendi Mario. Kappa, no, ho sentito anche io che ha prezzi buoni, però su molte cose è molto più caro del negozio qui a Sassari. Perché il mio capo è andato a vedere, siccome anche loro vendono rame, vendono multistrato, vendono un po' quelle robe di raccoglieria, però noi in questo campo li avremmo un capacacco, arriviamo 4-0, perché è molto più caro di lui. E poi è da vedere se questo qui è un gioco pubblicitario, se adesso i prezzi sono bassi per attirare la gente, per parlarne bene. Poi bisogna vedere tra qualche mese com'è, perché poi magari come si vede che la gente inizia a andare, magari i prezzi aumentano, perché se no stanno le cose così veramente come hanno fatto a vedere questi due giorni, quando un gabacacco a città mercato, quando un gabacacco a Cosio, a Palmieri, quando un gabacacco a Medimenti, sulla ferramenta e parlo. però bisogna vedere se mantenere sempre le mantelle sorpresi o se la pure giamba. Mario. Come? Allora, lo sai quanto è incassato il primo giorno? C'è un amico mio che lavora lì. Dico, dite una cifra esagerata, è il primo giorno solo. 20.000 euro. Quanto? 20.000 euro. 20.000 euro, 357.000 euro il primo giorno è incassato. Sì, tutto il nord di Sardegna è andato, vabbè. Allora, c'è presente che del gruppo della città mercato, il bricco che c'è la città del mercato, ne hanno fatto due in Sardegna, ce n'è uno a Torino. Sono tre in tutta Italia. Quello di Cagliari ha fatturato più di tutta Europa, è stato il negozio che ha fatturato più di tutti in Europa. Come fa parte, non è un gruppo francese, cioè fa parte di Auchan, quindi. Sì, fa Auchan, è francese, infatti Auchan è francese. È la stessa città, è lo stesso bricolo che c'è la città mercato, però moltiplicato per 100. Se tu vai di lì dentro, Salvatore, ti spaventi. Quello che c'è di assortimento. Non parliamo di cosa, di prezzi, perché ho visto dei prezzi da paura. Ma anche a roba di antenne, io mi ho comprato un'antenna logaritmica per la TV per portarmela al mare, non so quanto l'ho pagata. Tu dimmi. 8,99 euro. Poi ho preso 10 cacciaviti, ma non cacciaviti da 13, cacciaviti discreti, non saranno beta, però li ho visti come consistenza, 4,90 euro dentro una busta in chiusi. E 50 taglio 50, c'è di tutte le misure, ma non da 13, tipo quelli cinesi, cacciaviti con un manico bellino, cromato, acciaio al cromo, cioè non era una porcheria. E ci sono assortimenti di tutto, di cose da paura, cioè di qualunque genere, ho visto di legno, cosa c'è di. Non parliamo poi del reparto di quei box doccia, sarebbe per Nellani, lo mio fratello, uno di quei box doccia idromassaggio con le ante in cristallo, con la radio dentro, idromassaggio alla schiena, le luci in alto, 249 euro. Quanto lo paghi tu uno di quei box tutti chiusi? Sì, era avvicinabile prima, sembra che anche a 1000 euro sono arrivati. Salvatore, cosa è da paura? Di assortimento, mi ha impressionato l'assortimento, quello che c'è di roba per fare la falegnameria, di banchi di lavoro, di quelle cose pialle, di tutto, cioè di tutti i prezzi, di qualunque genere, cioè non è dire tipo, tra l'altro Britannia ha chiuso, se l'avete visto, non so se l'avete visto. Sì, sì, ma non è detto che ha chiuso, e che sa cosa fanno di adesso? Questo ha mancato tutti quanti, non tanto Britannia che stava andando male, quelli grossi che hanno investito tipo Fanta e quell'altro che ha aperto ex in legno, in aeroporto, da quelli li ammazza, proprio. C'è un assortimento da impressionare. Guarda che c'erano anche quelli che sono a fianco a me che erano spaventati, vabbè. Salvatore, se tu vedi i cancelli interi, un cancello completo tirato, quello che vende i cancelli, l'hai visto ai punti, a quello gliene fa le scarpe, vende i cancelli interi da 150 euro in su. Non parliamo poi di scale di quelle d'alluminio, sino a 9,80 metri, ci sono quei trapattelli, attrezzature per fare pepeastrellisti, seghe circolari, di tutto, cioè un assortimento mai visto, io almeno qua non ho mai visto di cosa del genere. Roberto, dimmi, la scale in alluminio, quanto costano le scale in alluminio, quelle, hai capito, quelle che si fanno a forbici, cioè poi si allungano? Ce ne sono di tutti i prezzi. La più piccola che ho visto parte da 3,95 m sino ad arrivare a più di 9 metri. E cosa costano? Quella che c'ha, mi sembra 14 gradini perché c'ha 3 a forbice, però è telescopica pure, mi sembra, non ti vuole dire la presidente, no? C'è un libro, mi pare sui 140 euro, ci hanno mandato un libro grosso, ci saranno un centinaio di pagine di argomenti. Vengono anche, sabato, i pannelli solari, se tu vedi i prezzi dei pannelli solari ti spaventi. A me mi fanno, ho chiesto un preventivo, 3.500 euro di lì, intorno ai 1.300-1.500. Vabbè, anche contro soffittature vendono. Tutto gatto, qualunque attrezzo, di qualunque genere di cosa, dall'elettricità a finire a. La guaina che ha travata per dire, cazzo, c'ha dei prezzi allucinanti, infatti ha detto, quello ammazza pure ditte tipo del sole, cosa del genere. Certo, i foratini non vado a comprare da loro, o i brocchetti, perché vado, o la sabbia, cosa del genere, vado per grosse quantità, vai da Capolino, cosa del genere. Però uno che si deve comprare qualche cosa così, uso per farti qualche rivestimento in casa, in gara, ci sono prezzi da paura. No, mi interessava perché lo farò con una controsoffittatura, potrebbe interessarmi. Intanto, la seconda cosa è che domani andrò a posa a pranzo, intanto a pranzo a casa non scendo. Ci fanno a vedere a comodo di che mai c'è meno gente. Ma lo sai che devi andare a provare esattamente del mattino, sabato. E a quello non ce la faccio, vabbè, no, vado lì, no, chiudo a luna, Prima di un panino, alle 9:30 sono andato al negozio, fino alle 3. Sì, puoi andare anche di lì. Guarda, io sono andato stamattina all'1:30, ho detto ci sarà meno gente, vero era Romondo. Il parcheggio l'ho trovato, ieri sera verso le 6 stavo salendo da lì punto e te ci proviamo a entrare. Quei tipi dei parcheggi hanno detto no, non si può neanche entrare, lasciate via. Ma passi da qua, c'era una fila varia, tipo quando c'era, non so se ti ricordi, i periodi quando c'era la torre di Vera Obbedienti, che non si poteva passare a testa dei segni, uguale. Solo che di lì era a prendere niente. Allora, quindi chiuso anche quello che c'è dentro il channel, se è doppione, ecco lì. Non lo so, Salvari non tengono un posto di un appoggio così piccolo. Però Salvato è una cosa enorme, cioè a livello di estensione è enorme, poi è altissimo, c'ha di quelle scaffalature pieno di roba. Poi non parliamo di climatizzatori, arredi bagni, docce, ci sono dei piatti doccia, io ho detto buh, siccome l'ho comprato da poco il bagno, me l'ho fatto quest'estate, io l'estate sto, cazzo, ma ho visto i prezzi, Salvato dei piatti doccia, già la Giovedì da Lona è una bruttitura, ma prezzi da paura, cioè buh. Vabbè, se non mi fa un po' di risapere, vabbè, buona sorpresa, se vuole mi faccio un giro. Ma voglio vedere se c'hanno quella specie di pannelli per controsoffittare, mettere lì, in maniera che, se quello cos'è, faccio fare un calcolo, intanto mi prendo la metraggio, quindi, no, vabbè. Sì, penso siano a metro quadro, quelli ho a foglia, adesso non lo so. C'è un po' di tutto, io ho il libro di catalogo, stanno non te l'abbiamo messo, ne hanno riempito tutto il sassari di quei, non sono volantini, sono proprio un libro, una cosa grossa, ci avranno un centinaio di pagine, e ti guardi tutto. Ma poi se devi vedere gli utensili, ma non roba da mangiare, ma anche di un certo livello, i tacci e cose del genere, Bosch, cioè ma prezzi, buh. Da paura, anche se c'è anche professionali, chiavi di navometriche, cose, cioè per certi tipi di lavori importanti pure trovo. Vabbè, facciamo riprendere agli altri, se no si annoiano. Avanti Luca. Luca non c'è, vai Mario, puoi far che. Tutti muti, fa che vai. Eia, no, conviene, sono dei prezzi allucinati veramente. Conviene, e poi hanno di tutto di più, capito? Ma io penso che quel negozietto lì farà chiudere parecchi negozi. E ancora niente, aspettate quando apre quello di Montenegro di fronte alla cosa, di fronte alla piazzetta, ui, cosa non avete e prendi, ui, cos'anca. Ma perché apre? E se per fermo lì, Mario? Ma è te che ce l'avremo, perché tu non sei passato mai alla parte di dietro, stanno lavorando anche le notte con i lampioni, è vero, ci sono altri due piani sotto il livello stradale, che ci sono i garage e i magazzini lì, è vero che andrò a prendere in giro cosa ha detto i figli. Ma come non avevo un capposanto anch'io, non stavo facendo un cimitero lì. E a fianco, però tu guarda bene che dall'altezza di linea d'aria, sto parlando, quando tu stai scendendo, dall'altezza di prima di Confalonieri, un pochettino prima di Confalonieri, fino a dove giri giù, vicino a Testoni, che c'è quella specie di bretellina che entra per Pretagnetta, quello lì è tutto suo e va anche dietro dove c'è acqua sapone e via dicendo. Tu le rinnovi da tutto il Venghini, quando la preghista basta mezzo Sassari. Mario, ma è che la Conrad è quella, è credi la Conrad deve venire? Non lo so se lì viene la Conrad, perché la Conrad ha so che ha pigliato tutti i negozi che c'erano a Sassari, e più il capannone dove c'era Salisi per le provviste, però lì credo che sia lo stesso una ditta francese che l'ha preso quel capannone quel mega galattico locale che sta facendo di fronte alla piazzetta. Butinetto è quello, non l'ha ancora venduto, gli hanno fatto delle offerte ma non l'ha data, probabilmente apre lui. Si è venduto uno più o meno per riapre, vabbè. Lui addirittura si è parlato, poi mi sono andato perché è impossibile fare una struttura del genere, solo frutta, vendere solo frutta. Sì, allora rimane come fa, però mi sono troppo grande per vedere sulla frutta. Vabbè, tutto è possibile, tutto è possibile. Un attimo, volevo dire, ma io ci avevo sentito che doveva venire anche Carrefour, doveva venire a Sace, ma poi hanno abbandonato l'EA. Carrefour l'hanno fatto morire quelli assessori del comune di Sassari, gli hanno bloccato il progetto, non l'hai visto, di fronte dove c'è il mercato. Dove c'è il mercato, ho capito, sì, sì, dove c'è il mercato, aspettiamoci, ci conto che vengano, però poi appena appena ci siamo più certi con l'acciaio, Mario, che per sole. Capo del positivo. Ci saranno proprio più centri commerciali, perché adesso iniziano ad essercene tanti. Allora ci abbiamo Carrefour, cioè Conforama giù, ci abbiamo tre negozi di Eurospin, ci abbiamo cosa ci abbiamo? Ci abbiamo Cipata che è Galattico, poi ci abbiamo Palmieri, ci abbiamo. Ci abbiamo tanta di quella roba in giro, che quando viene negli si grossi, e se vedagliano un po' a tutti, cioè i piccoli proprio spariranno. Ma sai cos'è che ancora non hanno aperto? Che si era appena parlato, Ikea, Mercatone 1 e Carrefour, sapono quei tre, fariscono anche falegname. Ikea è un bello, io l'ho visto quando sono andato fuori, quando sono andato a. C'era aperto dove c'è la mia memoria. Nel modo vicino a Bolzano c'era l'Ikea, guarda, bellissimo, ma l'Ikea è una cosa enorme lo stesso, vabbè. L'Ikea è numero uno al mondo sui mobili, cose del genere, ha dei prezzi allucinanti e un assortimento da paura. Se vedi il catalogo dell'Ikea, boh, ci avrà 300 pagine, vedi di tutto, di tutti i generi e a tutti i prezzi, cose da paura. A Cagliari c'è l'Ikea, qua in Sardegna c'è solo a Cagliari. A Sassari l'avevano proposta Multinedu, dice di dati locali, però probabilmente ne voleva troppo e ci hanno rinunciato, stanno valutando se aprire o no. Ho letto un articolo sul giornale da poco. Mi viene in mente al centro Affi, dove c'è lo stodo, lì ci sono dei centri commerciali, c'è anche quello ex del presidente di Palermo, come si chiama, quello che c'aveva lui, il centro commerciale, c'è l'Ikea pure. Sì, avanti su 21. E che ha quello aperto nell'altro canale? Sì. Non lo so, vabbè. No, ma qua allora io ho degli amici che vengono da fuori, sono venuti qua a Sassari, hanno visto costruendo quello di coso, di Multinedu, quello che c'è di fronte alle case Tomario, ha detto, ma cosa ci avete qua a Sassari, dice, per attirare tutta questa gente, dice, considerando il numero degli abitanti, questi abitano su, vicino a Monza, quella zona lì, ha detto, è impossibile capire come mai ci avete tutti questi centri commerciali, una penetrazione, c'è una percentuale di centri commerciali che non c'è da nessuna parte d'Italia, dice Sassari, deve essere zona ricca. Basta andare in lui il tuo capito, lo vediamo subito, vabbè. Ma tu considera cosa ci abbiamo, se la cosa è Ocean e coso, e la Conad che hanno aperto, c'è la Vespa, che è grossa, ci abbiamo la Piazzetta, poi tutto Cobel, che tutta quella roba di lì, poi cosa è? Mi risolvano con 4-5 di macchi grossi, Eurospin, cioè cose, il mercato è sempre quello. A noi ci va bene perché cercano di fare i prezzi uno più basso dell'altro, però parliamo di elettronica, che l'elettronica tra Media World, Unieuro, Euronix, c'è una guerra continua, anche se Media World ammazza tutti sempre i prezzi più bassi. Ma l'ho visto ieri da a Francoforte, si chiama Saturn, era un centro commerciale enorme. Ho visto televisioni ci sono cassati da qualche giri, quindi a LED, quindi finire, vabbè. Quelli della nuova generazione sono infatti quelli, quelli nuovi che stanno arrivando adesso, che stanno sostituendo quelli fluorescenti, che dietro avevano le cose, le lampade fluorescenti, sono quelli nuovi, consumano molto di meno, scaldano molto di meno e rendono di più a livello di luminosità, più uniforme rispetto a quelli fluorescenti che c'erano prima dietro, con i tubi. No, ma c'è un'evoluzione continua, infatti non conviene investire tanti soldi, infatti l'abbiamo già detto qualche frequenza, sui televisori questi a schermo piatto. Non conviene spendere tanti soldi perché dopo un anno ce l'hai già vecchio quel televisore che adesso è nuovo. Il comparatore si vedeva benissimo, è un po' chiaro, e non è che cari rispetto, guarda, un 32 pollici venisse intorno ai 900 euro veniva. Sì, sì, normali, ma ormai sono tutti di nuova generazione, sono tutti a LED, non ne comprerebbe nessuno se non stanno cercando di rendere LG, hanno iniziato a portarli a poco prezzo per Samsung e tutti gli altri, perché prima quelli della Sony e Panasonic che costavano ancora troppo, adesso sono scesi parecchi prezzi. Dimmi un po' il tempo come era, Salvatore. Guarda, stava sempre piovendo e freschetto sono ai 4-5 gradi, erano sempre. Si poteva aguantare. Una settimana prima c'era un sacco di neve, mi ha detto tutti, mi ha detto se veniva una settimana fa mi va male anche a circolare. Se lo so, Francoforte sei un po' in alto rispetto a lui, là. Lo vedo già si intende. Cosa c'è? I laghi ci sono vicino a Francoforte? No, c'è il fiume grande che abbiamo attraversato dal Man. Quindi c'è anche un po' di umido di lì. Ma è bellissima come città, tutta Grattacieli perché è stata distrutta dalla guerra, se capita di faccio delle fotografie, me lo comprate, com'era dopo la guerra e come adesso, vabbè. Adesso poi i tedeschi sono molto attivi, non so come te noi, quando costruiscono le cose le fanno durature, non so, sabbia riciclata mentre a tempo. Con la marmellata, sono cose che non concepiamo. noi siamo abituati a mangiare molto diversamente. Comunque, dai, io vorrei fare una cosa, guarda, adesso al prossimo viaggio andiamo a Stoccolma, ti organizzi? Che Stoccolma fa freddo, mi deve andare l'estate di lì, sabato. A giugno? Magari, dai, vediamo, non lo so, sarebbe bello. Io, ecco, il mio desiderio era sempre andare di lì, nei paesi nordici, però quando c'è caldo, sarebbe una cosa bellissima, perché a me mi piacciono quei posti. Vabbè, con Ryanair ci ha consentito di visitare tutta Europa, ci ha messo in queste condizioni, prima era impossibile. Sai quanto ha speso? Io mi avuto 40 euro andata e ritorno. Cacca, io andiamo, organizziamo tutti i cibi di Zazzara, io Mario pronto, sì, falchetta, io. Quello che costa non è il viaggio, perché con queste voli online e cose si paga pochissimo. Quello che si paga molto è andare lì. Chi andate nei locali, burbamagnetti, c'è di decani. Allora, anche lì bisogna stare attenti, no? Quando c'è tutti adulti, quando c'è bambini, purtroppo deve entrare, il bambino c'ha fame, c'è questo per entrare il tuo locale che ti trovi. Invece quando c'è tutti adulti, guardi, controlli, ti guardi i prezzi, poi basta battere molto il self-service. Il self-service ti prendi quello che vuoi e sei tranquillo. Se entri in un ristorante, per forza ti basta il bagambe, cioè, tu vai in self-service, metti brava, questi locali qua, e lì, bene o male, insomma, non è che ti spendino, ecco. Ecco, però io lo so, ma bisogna essere un po' organizzati, perché quei voli lì bisogna prenotarli tramite il computer, magari devi prenotarli un paio di mesi prima, perché c'è anche quello che lavora con noi, che quando c'ha le ferie, ma già da quando ha finito le ferie, si è già organizzato un viaggio per quest'anno, per quest'estate, capito? Si è prenotato il volo di quello online, è andato in ritorno, l'anno scorso per dire è andato in Spagna, l'altra volta è andato ad Amsterdam perché voleva vedere, niente. E dice che si è divertito molto e ha pagato poco, però essendo ragazzo, sai com'è, un panino qui, un panino là, e poi il resto del giorno in giro, poi addirittura si prenotava gli alberghi e vedeva pure le camere del computer. E male, come si fa? Io però, vedi, preferisco non stare in giro che ti dice, adesso per esempio, però non ho visto bene Madrid, adesso non ho visto bene Francoforte, ci sono appese a tre volte, adesso magari al prossimo viaggio cambio e vado in un'altra città, perché non te ne andare, non so, due giorni solo in una città, poi cambi, non la vedi bene, devi vederla, almeno per vederla devi conoscerla bene, devi conoscerla. Se l'hai conosciuta bene cambio zona. Però sta dicendo, adesso vediamo un po', la prossima non ho ancora deciso, ci devo pensare, vabbè. Però incontriamo lì e basta. A te se la qualcuno vuole mangiare, chi è avanti? Ci hanno parlato sopra. Ma tu a Stoccolma sei già andato sabato? Sì, è bellina, sta vedere. C'è anche più bella, però è da bene da vedere. Diciamo che si può starci diciamo due giorni, un cambio di qualche cosa, se ci stiamo magari a 4 diciamo più roba. Che periodo sei andato tu? Come si è detto le robe? Aspetta un attimo, che periodo sei andato sabato? No, io sto qua, ma sono andato nel periodo di agosto, proprio per la questione del freddo. Ah, quindi periodo buono. Cos'è il tuo frate? Ha detto ce l'abbiamo ancora la vedi? Ma io l'ho fatto entrare, non è? Davanti chi vuole entrare? Io sono rilasciato già due volte, facciamo un attimino di bianco di nuovo, vediamo chi vuole entrare, avanti. Cioè vuole entrare, entra, vuol dire che io ogni tanto lo lascio un pezzettino di bianco, ma di qualche volta si esagera, sono troppo prolungati i passaggi. Li prendi tra Mario? In estate si viaggia meglio, il tempo è più, diciamo così, è più dolce là, specialmente in quei paesi lì, perché se no ti cansa di girare un freddo e noi non ci siamo abituati a quelle temperature. anche perché io perlomeno quando sono andato in Belgio, con tutto che sono andato in estate, quando sono arrivato in Belgio, si è portato un po' così solo italiano e ci sono stato una settimana. Poi da lì ho fatto tutto quanto il giro, sono salito fino a dove si imbarcava, dove era affondata la nave andando in Olanda e in Inghilterra, che adesso non mi ricordo manco il nome, perché era partita con lo sportellone che non era chiuso bene, ha imbarcato l'acqua e era affondata la nave. E poi lì era tutta canaluri, perché il porto era praticamente dentro la città e le navi entravano dentro i canaluri. Insomma, pochettino così, però lì c'è freddo, se non vai in estate è stato un accelerato, specialmente noi che abbiamo climi molto molto miti, cappa, riprendi qualche. Cappanoccia, ebbene in effetti così. In effetti è così, bisogna andare a trovare la stagione giusta e andarci con la stagione giusta, se no è casino veramente, riprendi Roberto. Non so, però sono i posti, cioè mi sarebbe piaciuto andare tipo in Islanda, quei paesi proprio nordici in alto, però deve andare quando c'è caldo, l'estate piena, se no vuoi, se no ti cancare già il vino. Mi dice, quando c'è l'estate, dice il giorno tutto, cioè la luce dura tutto il giorno, così è salvato. Sì, beh, insomma, diciamo che diminuisce, non vedi col buio, questo, vedi sempre un bagliore. Però se sali ancora più su a Capomondo, proprio vedi i soli mezzanotte, lo chiamano loro, perché non trovano un tamale. Ma diciamo che dipende che cosa vuoi vedere, se per esempio ti vuoi vedere un Natale diverso, allora devi andare del tempo a cercare Natale. Dipende sempre che cos'è, certo l'estate le giornate sono più lunghe, ci puoi visitare più di più, puoi girare, non ti porti la valigia alla grande perché non ti devi mettere cappotti, né maglioni, né con la magliettina, e quindi dipende sempre da quello che uno vuole fare. Per esempio ci sono Natale, posso andare a Madrid, era bellissimo vederla in Natale, ma a girarla è meglio invece andare in un altro periodo. Io sicuramente, che va freddo, se no ti si cancare già nei ribelli. Dai, un attimino di bianco di nuovo, vediamo se qualcuno vuole entrare. Chiappa, dai, riprendo io roba che vado a fare un po' di carica. A dopo se coincide, se no tutte le procedure. Andrebbe, va bene, facchere, dai, risentirci, dai. Vai Mario. Ciao, perché buona carica, buon tutto, se coincide a dopo. Riprendi. Ciao, ciao fratello, buona carica, anche io non tardo, mi date 5 minuti e poi ti sono ruota anch'io a caricare, che anche io ho necessitato di ricaricare. Ok, va bene, fratello, ci sentiamo le prossime. Io vedo bene, così è, facciamo questo bianco, io non lo sento, se c'è qualcuno che sta parlando, io non sento nessun segnale, quindi deve essere la roba vicino a te questo che sta ogni tanto parlando. Come vicino a te, non mi ascolti? A te adesso sì che ti ascolto, ma poco fa non eri tu, no? No, negativo, buonasera a tutti. Buongiorno, non si vediamo da questo, mi ricordi. Facciamo una signora, buonasera, no, poco fa deve essere che stava entrando qualcuno, ma io l'ho sentito, zero completamente. Ok, nuovo buonasera, Massimiliano, ti passo adesso a Roberto, che mi saluti, che farà girare anche per Mario, va Roberto? Sì, ciao Massimiliano, ci sono sentito anche prima, ma sei in movimento Massimiliano? Sì, positivo, in movimento. Io ho degli sbatte, no? Come sposto di canale voglio capire chi c'è vicino a noi perché sento segnali furti. Ti rilancio a Mario, mi sposto un attimino un paio di canali per vedere chi c'è, che sento degli sbatteri io. Cappa, ciao Massimiliano, buonasera, ben entrato, ben risentito. Cappa di positivo, riprenditela Massimiliano, raccontaci. E lì, come hai detto me la radio perché fra un po' passo sotto casa tua. Va bene, a te. E io sei dubbio che non già ci sia bisogno da me, ma per fare apparare l'apparato anche se non è un guaio. Ti ho trovato? Sì, vabbè, addirittura c'è la gente sul canale 10, cioè tipo lo sguardo è sul 21, o era nel sotto casa mia, adesso ho chiamato perché c'era un segnale allucinante, e lo sentivo sul 21 lì sbattere a Santiago 7. Sì, se tu sentivi con quella che stai usando. Figura di cosa intrattendi, o erano sotto casa mia, perché è impossibile, perché questo è molto, molto stretto come coso. Ma sei entrato, l'hai riconosciuti? No, un secondino, ho visto la portante e poi ho sentito la voce, però non ho capito chi era. Ho chiamato ma non mi hanno risposto. O sono sotto a casa mia perché era talmente forte il segnale. Cioè, 11 canali di sbatter c'erano, figura. Mi spuglie, sta tirando fuori. Vabbè, là. Ok, adesso ti faccio via. Togliati. Chi è che ha parlato? Ho sentito, vergognati. Non lo so, non mi interessa saperlo là. Comunque io sono passato avanti questo bricomane, bricomene, come te lo volete chiamare. Cazzo, ci sono le macchine parcheggiate fuori nella strada, vicino al semaforo, allucinante. E lo stavo dicendo, Roberto, ce lo stavo raccontando. C'è il mondo, comunque ho sentito gente che c'è andata, ci sono prezzi allucinanti a vero, ma secondo me questo farà un boom micidiale. Ma si ha fatto tagliato un boom? È quello che sto temendo, solo che il boom bisogna vedere per quanto dura, capito? Adesso è proprio per attirarsi la clientela, ci sono questi prezzi. Da voi pure il Buruello conosce i prezzi, vediamo se si dirà, sono usci. Dove sono gli altri centri che ha aperto? Vabbè, ma gli altri centri siete mantenuti quei prezzi? A me mi dice, no, mi sono scontrato per capire chi era. E chi era me? Ma no, vabbè, non facciamo un nome, comunque c'è gente che entra qua, un paio di persone che erano qua. Ma sono ancora le 10? Sì, erano sul 10. Ma io voglio essere sotto casa mia perché 9.60 è il segnale. C'erano stato accorato? Erano di lì vicino, perché arriva 9.60 qua il segnale. Si vede presente, sono sul 10, io sono sul 21, sento gli splatter loro. Ancora? Sì, forte, come quando sei in banda laterale fuori frequenza, io sento, a voi non vi fa niente, siete più di 9, 9, 10, 9, 20, però sento più sotto delle vocine. Ciao, parlo giù. Vediamo un po' a Mario quanto gli arrivo di segnale. No, passaggio, un braccio. Sì, un braccio. Mi lo dico, il gioco, due all'altro. La nostra vittima è braglia, 9.60, non ti bussi! Com'è che sei di fronte a me sopra il cavalcavia lì, sopra il ponte della ferrovia? Ecco! Oh, se vieni sotto, va bene, dimmi! No, cavolo, sono in ritardo, siamo invitati a cena, e sono anche già molto, molto in ritardo, perché a me andare a messa uscita non mi piace le luci. Porti il prego, Giuseppe. Poi, grazie Massimiliano, buonasera a tutti e ben sentiti, da questa parte Giuseppe K. Ciao Giuseppe, buonasera, me ne scuso altro anche a te, in compagnia di Mario, di Roberto e di Salvatore Maestrale, il sottoscritto, avanti perché vuoi. E K di positivo, saluto cordialmente Mario, Salvatore Maestrale, Roberto, una stretta di mano, siamo da un po' senza sentirsi, dai, e riprendete la pure, Roberto. Beh, si direi, infatti, anche se ho detto, non ho più sentito Giuseppe, da un po' di giorni, idem a Capri, vabbè, sempre un piacere sentirti, non c'è problema, ti rilancio a Salvatore. Capo, buonasera Giuseppe, ben sentito. Vabbè, io ero assente, quindi non potevo sentirti per quello. Ok, vai Mario. Ciao Giuseppe, buonasera, ben sentito, anche se ti ho sentito stamattina, poco, perché sono portato nel camioncino, ma niente. Capo di positivo, va? Tutto bene, tutto risolto, sì. Capo di positivo Mario, tutto risolto e adesso siamo qua in postazione fissa. notizia ogni tanto qua sempre piacere. Avevo lei quelle le tue coordinate, diciamo che siamo un attimino distanti noi, e possiamo dire da una parte all'altra della città. Vedi un pochino al buon Giuseppe se riesce a fargli un controllo. A voi, alla 9.25 è abbondante. No, volevo dire, se riesci a togliere questo, ecco, va anche molto meglio. Perché c'è sempre dentro la caverna, questo riverbero che non è neanche un eco. Prova naturale, ti voglio sentire naturale. K di positivo. Vedi un attimino così il segnale di Giuseppe, Robè? Segnale come prima, 9.25, radio così è pulita. Ho sentito qualcuno che sta chiamando comunque. Allora, chi vuole entrare? Ciao a tutti, eccomi qua. Ciao Luca, ti rilascio a Giuseppe che è l'ultimo arrivato, poi facciamo girare a Massimiliano e così via. Avanti Giuseppe per Luca. Cappali positivo. Ciao Luca, anche se sento qualcuno sotto che parla, dai, non ci sta problema, ben sentito e ben trovato, dai. Riprendi tu Luca. No, riprendi io invece, volevo interventi perché come la tua annuncia fa poco fa che devo fare della roba. Ok, un saluto circolare a tutti, Roberto, Giuseppe, Massimiliano e Mario. Mario, ti do 2 secondi per quel colpo di massa che ti ho promesso. Cappa, buona carica, Sabato. Non tutto, ce la riascoltiamo tutto alle prossime, in radio naturalmente. D'accordo, vai perché? Ciao Sabato, buona carica con tutte le prossime, dai. Ci sentiamo avanti a te Giuseppe, vai. Adesso già tornato, Luca. Ma Sabato l'ha chiuso. E sta chiuso, mi sembra. Sabato? Dimmi, vabbè, sto chiudendo, sì, a te. No, mi sono spostato un attimino per capire chi era. Stai chiudendo quindi, c'è la partita a me, Juventus su Palermo dopo, è 9:15. Sì, no, ma di più perché bisogna mangiare, sennò svengo sulla radio. E poi così vi avvengo, non lo tengo un po' perché qua tutto, come sono arrivato, sono così acceso e poi mi stavo un po', volevo organizzare tutto. Ok, credo che ci sentiamo al telefono, Robbe, domani mattina. Ma no, stai vicino al telefono, ma chiudo il tempo di accendere il telefono e ti sto chiamando, eh. Un saluto a tutti, Luca, Giuseppe, Massimo, tutti quelli che sono sul 21, tutti per me. Cappa di positivo, Salvato, vai. E buona carica e buon tutto, e buon inizio di trabacco per domani da parte di Giuseppe. E avanti Roberto. E a ciao Sabato, ci sentiamo male domani per telefono. Avanti Mario. E che puoi fare? Avanti. Ciao, sono Tony. Tu sei a Tony? Sì, ciao. Ah, no, mi sembrava un'altra modulazione. Ok, ciao, gli sbatte allucinanti, fa che... Antone, non li senti tu? Sì, sì, ho sentito io, ti preoccupare, sono stati in pizzeria. Siamo, sono sul 10, io sono sul 21, li sento a Santiago, 7 di sblatter. Sono sicuro anch'io, non ti preoccupare, non è niente quello. Figurati, 9.60 qua il segnale loro. Ah, ma già va. Ho rilanciato a Marie, vabbè, forse Mario sta rispondendo al telefono. Chi c'è rimasto? Giuseppe, dai, ti rilancio, avanti Giuseppe. Cappa di positivo, dai. Robè, approfitto per salutare, non mi sono accorto dell'ingresso, ma dal VIP sembra il buon Antonio. Se sto sbagliando correggetemi. Comunque io già lo saluto con un entrato cordialità come sempre, Antonese, sei tu una stretta di mano, dai. Ciao, ciao Tony, non c'è problema, mi sentito. Questo è stato una bella ragazza, ti avrebbe detto un bacio in bocca, così è Giuseppe. Dai, poco fottuto. Diciamo se fosse stata, sì. Però diciamo anche se un ragazzo è sempre bello entrarci sempre in una certa maniera, con una certa, diciamo, educazione, e va bene così, dai, una stretta di mano si dà sempre volentieri a tutti, Robè. Sto scherzando, non ti preoccupare, sei una persona educatissima, niente da eccepire, ci mancherebbe. Ho solo fatto una battutina, dai, non è normale che più uno saluti in quel modo qua, che molte volte facciamo battutine un po' scomposte, dai. Tranquillo Robby, tu sai benissimo che per me non c'è problema, assolutamente al 100%, vai tranquillo, e riprendi. Sì, a me sembrava sentito Luca, Luca ci sei ancora? Ecco, sono rientrato. No, sono saluto da Pompuglia. Ciao Luca, saluto, mi hai sentito? No, allora. Dice, stamattina ci ho fatto un salto lì in zona tua, però quante non ne ho visto. L'ho messa trasparente io lui per non dare nell'occhio. Vabbè, me lo usi. E tu tutto a posto con l'antenna Lu? Sì, la mia è a posto, però devo risalire, adesso vediamo un po', la giornata, la domenica. Niente, devo cambiarmi il palo. Però lo faccio, vediamo un po' l'altro mese. All'altro mese faccio tutto. Così fatta fatta ci penso più. Luca. Ciao Giuseppe, Luca. Ascolta la song che metto dopo. Ma se ti piace. Ciao Giuseppe, scusa. Ascoltala dopo Lu, già sono qua in ascolto. Riprendo io un attimo, scusate. Sì, Giuseppe. Stavo dicendo che per il palo prova a avvicinarti da Marcello, vai e scegli tutto quello che vuoi. Ho un motore già pronto, mi aveva comprato Claudio, bello, massiccio, non frega niente, 60 euro sono i costi. No, ma sai cosa volevo fare? Volevo cambiarlo tutto perché troppo i buchi, Luca, troppo buschi, troppo ti picchio. Come stavo dicendo, adesso vediamo, lasciamo stare già pronto, dove stai lì, fare i buchi, saldare i dadi, è un casino, dai Giuseppe, lo so, se la prendi San Vito lì, quindi tu avevo pagato 30 euro, 5 metri di palo. Oh, riprendo io, scusate un attimo. Vabbè, io anche no, guarda che ci sono già qualche oretta, se no mi ci rubo da gambo. Saluto a tutti, ciao Giuseppe, Luca, Claudio, Mario, non so se ci sia ancora Massimiliano, tutti gli eventuali amici in ascolto, quello è definitivo da parte mia. Ciao ciao a tutti, buona giornata per domani. Ciao vabbè, buon quello qui, buon tutto, buona visione del mondo visione e buon proseguo di serata, va. Se lo risentiamo alle prossime. Ciao ciao, voi Luca. Ciao Romè, ciao, sono il Quelix. Romè, buonanotte, voglio andare a perdonare alle prossime, ciao, va Giuseppe. Papà, ciao Romè, buon QRT, buon tutto, dai. Ce la risentiamo presto, buona giornata per domani, buon inizio di trabacco e naturalmente forza a Palermo. Ciao Romè. Da Palermo. Siciliano sì. No, è sempre uno scherzo il mio, K. Maledetto Giuseppe, maledetto. Ciao Romè. C'è un attimo, 2 secondi, devo scattare il carro, aspetta. Addio, mentino Giuseppe. Signori, mi sa che anch'io vado in QRX, non so che ora sia, però credo che la tappa sia pronta. QRX per me, se coincide ci sentiamo più dopo, dai. Saluti a tutti sul canale 21, K. Ciao Giuseppe. Sì, buonasera. Buona carica e buon tutto, alle prossime. Ciao, buon buco. Ciao e buonasera. In culo la candela, ma non ti sei fatto più in vita così, dai. Perché sto lavorando, non per l'altro. Perché sto lavorando. Ti ho pagato l'altro, ti dico non ti trovavo. Mi ci vuoi fare l'omia, lo sai. Però se ti avvicini a me ti potrei anche avvicinare, Beh, cosa mi dici? Quell'albero non lo devo riportare così com'è? calmo, calmo, non ti arrabbiare. Io non mi vengo arrabbiare, non vedo che poi sarà la fine della storia, che sarà 3 anni, sono di 4. Tra l'altro se ci potessi dire per esattezza, non sono 4 anni, sai io, sono un anno dopo nemmeno che c'è con l'arco, sai io. No, ho detto, non vorrei che facesse la fine dell'ostelio, stappale delle orecchie, che durai 4 anni l'ostelio. Cos'è, ma parli, eh? Sì, non parli, non parli. C'è ragione, c'è ragione, non sbaglio, c'è ragione. Ma no, siccome non mi è stato sapere niente, quella cosa l'avevi messa a posto col microfono. Ce l'hai il microfono, cosa c'entra buco? C'è un altro accento, c'è anche l'altro buco, c'è un microfono buco, l'altro vuoi? No, ho detto il microfono con l'altro, l'hai messo a posto, e così mi porti anche l'apparato. Ah, ma l'altro, secondo me l'ho messo a posto, calmo, calmo, non ti preoccupare per quello. E poi Giulio! Giulio! Un demone che ti insegua! Tu! Dimmi, tu che stai lì? Avanti! Appa, Claudio, ci sei? Claudio! Aspetta, Claudio! Passa, più o meno. Oh, qual è il coso? Tu finisci il contare 3-4 mesi ti danno tutta la disoccupazione. E poi all'anno ti dovrebbero dare la liquidazione, l'antidat. Ma l'antidat. Cappa. Sono paquilla allora. Insomma, la liquidazione mi sembra che sia intorno ai 2000 e qualcosa di liquidazione, ma di liquidazione, di disoccupazione, perché sono sempre requisiti ridotti. E poi c'è la liquidazione, che la liquidazione ci dovrebbe arrivare a più o meno all'anno, là. Se tu vai a rompergli le scatole, magari te la danno anche prima. No, non ho capito. Qua si parla sempre di assegno, no? Ma cosa? È il fatto di positivo. Vabbè. Un secondo arrivo, Mario. Sono qua. Però è sicuro, c'è nessuno nascosto. Prego sul 21, Gattio. Prego sul 21, se c'è qualcuno che ascolta questa piccola trasmissione.